Eccoci qua. Cosa ti sei bevuto? Depressione. Ubriaco alle 3:30 del pomeriggio. Sì, vabbè, per me la giornata è iniziata a mezzogiorno. Dicevo, eccoci qua all'ottavo episodio di Micio Sugone. Ottavo e ultimo episodio di Micio Sugone Triforce. Ottavo e ultimo perché l'otto viene dopo al 7 e ultimo perché lo diremo più tardi. Allora. C'è Variopunk, l'avete già capito, avete già sentito anche parlare Scardepunky in RxK quarto, ma adesso li presentiamo lo stesso. Scardepunky. Arenato negli anni Ottanta. Ciao. RxK quarto. Ciao E Gira 93 sempre da Vice a tutti. City. Com'è la situazione a Vice City oggi? Il tempo è stabile? Sì, no, oggi c'è il sole, c'è un po' di gente che cammina in giro, c'è alcuni in macchina che corrono e uccidono gli altri, la polizia che non dice niente. Tempo Passano col stabile. rosso. È Normale, stabile, insomma. stabile. È la Si normalità. vedrà sole con un Esatto. po' di nuvolette. Ok, Dai, va. di Diaz ne parliamo dopo. Allora, Ehi. dicevo, questo è l'ultimo episodio. Causa, io ho deciso che questo è l'ultimo episodio e gli altri sono sottomessi e hanno detto va bene. Mai detto. Kitaccia consente. Se avete qualcosa da ridire, siete ancora in tempo per dirla e io non vi ascolterò, Io non ho niente da dire. Hai visto? Anch'io. Tacciono tutti, quindi. Così, sensuale. Ah, lo so, ma potrei Tu dirlo. dici delle cose che si annullano a vicenda, Ditelo quindi non ha senso. al pubblico. Siete contrari o favorevoli? Astenuto, A cosa? ok. E alla chiusura. Delle case chiuse. No, del podcast. No, non è, non, secondo me io sono sfavorevole, assolutamente. Ok, abbiamo uno a sfavore, abbiamo me a favore, poi abbiamo il capo supremo che è a favore, poi. E poi anch'io sono a favore. Anche tu? Sì. Quanta Dopo spiegherà le tue cosa? motivazioni. Sì, Te l'avevo anche scritto sull'email, mi pare. però le motivazioni Si vede che non me le ricordo. gli arriva Ah. di minacce di morte. Ai troll, è colpa nostra se i troll invadono i tuoi video, di la verità. Eh sì, è vero. Perché E poi abbiamo seguono il podcast. Scardepunking che. Cosa? Seguono il podcast, i troll. Esatto. Sì, e poi vengono. Però gli insulti scrivono nel tuo video. Sono troll molto furbi per non farsi riconoscere. Sì. E Scardepunking non vuol dire la sua, No, a me non quindi. me ne frega niente. Tanto su 27 visualizzazioni sono 20 troll. Ok, sei a favore, vedi? Allora, cioè, le motivazioni sono sostanzialmente che il gioco non vale la candela. Non so, mi sembra che si dica così, però non mi Sì, riconosco. Non so di cosa stai si dice parlando. Si dice quello. così, no? Sì. Vedi, non so perché si dica il gioco non vale la candela, però la candela del naso forse. Però è così sostanzialmente, perché noi ci sbattiamo, Gira deve annullare i suoi impegni di lavoro con Diaz e Company per perdere 2 ore davanti al computer e uscirne col mal di testa per 27 visualizzazioni, sinceramente non ne vale la pena. Quando un testa di cazzo come Yotobi o giochi di merda, semplicemente dicendo cosa hanno mangiato a colazione, commentando male un film, hanno 5 milioni di Basta visualizzazioni. dire che tu usi l'ultima puntata per insultare la gente che sta sui coglioni Dopo, della stessa cosa. Giusto? e sono eroi nazionali, quindi. Giusto? Riccardo sta aspettando che mi smentisci. Smentiscimi. Devo dire. Devo dire. No, adesso. No. Diamo a tutti il tempo di dire cosa ne penso. Riccardo, tu invece ne sei sfavorevole, spiegaci. Boh, non lo so, cioè, io comunque mi divertivo anche a farlo, se per voi è un problema, cioè, No, no. divertirsi ci divertiamo, però è diventato un impegno fisso che Minchia, se è così pesante non lo si fa, basta, non c'è bisogno di. non è che è pesante, che possiamo benissimo farlo tra di noi con Skype senza metterlo pubblicamente, perché tanto è la stessa cosa. Vabbè, nessun problema. Poi Sì, cioè, vabbè. io come t'avevo, lo dico anche al pubblico, Sì, anche perché non mi ricordo. che ero d'accordo sul fatto che il gioco non vale la candela, perché mi avevi detto anche che nelle visualizzazioni chi lo guarda fino alla fine solitamente sono 3-4 persone. Sì, esatto, è vero, anche questo sì. Quindi, cioè, giustamente tu sì, ti metti a parlare, però poi devi anche ogni volta uppare i video e tutto, quando alla fine, cioè, sono 3 persone che ti seguono, capito? Sì, c'è Cioè, anche da dire che. non è il massimo, ecco. Dopo 2 ore davanti al computer uno sa anche il mal di testa e gira un po' le palle, eh. Poi chiedete di bestemmiare continuamente. Ma non gli ascoltatori, io... Vabbè, tra tutti gli ascoltatori. Gli ascoltatori sono anche, ci sono anche quelli fedeli, li conosco tutti, infatti. Ascoltatori occasionali, se li abbiamo, ascoltano 2 minuti, 5 minuti e poi smettono, è quello il problema. Grazie a Google, no, cazzo, YouTube, com'è che si chiama? Analytics? Sì, sì. Si può vedere un video quanto viene, diciamo, si chiama fedelizzazione degli ascoltatori, no, degli ascoltatori, fedelizzazione di chi guarda il video. E puoi vedere il grafico di quando la gente smette di guardare il video o incomincia addirittura, perché c'è chi salta. Quindi vuol dire che in questo momento non ci sta ascoltando nessuno. Beh, in questo momento ci stiamo ascoltando noi quattro. No, però sono già passati 4 minuti, quindi parliamo al vento. Sì, sostanzialmente stiamo per perdere ascoltatori. Sì. Dipende quanto rimaniamo volgari. Se rimaniamo volgari forse ne aumentano. Forse ti becchi anche un non mi piace. Già, è probabile. Cosa stavo dicendo? Ah, sì, comunque guardando questo analytics si vede che sono tipo 3-4 su, anche su 70 se guardiamo Ask the Maker, che arrivano fino alla fine fissi, e poi sono a 5 minuti c'è proprio il calo terribile, c'è la... presenti i grafici che si vedono nei film, ecco, che va giù fino a sotto il più possibile. Vuol dire che ascoltano la sigla, l'introduzione e basta. Sì, la sigla è molto lunga. Sostanzialmente quando inizio a parlare io cambiano pagina io del browser. E comunque il motivo è questo. Cioè sì, divertente, però non vale la pena di farlo pubblico se tanto possiamo farlo tra di noi e divertirci lo stesso, per dire. Senza mal di testa. E niente. Gira giustamente d'accordo con me su questo. Tu non ti vuoi esporre, anzi tu non te ne frega niente. Vabbè, è una cosa che si fa per vivere. No, per vivere. Cioè, Riccardo, non ti preoccupare, non è che chiudo le porte definitivamente, cioè, come si chiude si può riaprire. Ovviamente io non riapro mai niente, però non no, si sa mai. Di solito quando si riapre un membro viene cambiato con una celebrità. con un ex membro dei Kiss. I miei contatti con Peter Criss sono noti. E... se dovete dire qualcosa, dite pure. Perché dopo non se ne sarà più il tempo. Da, dopo cambiamo argomento. Io ho già detto. Ok. Ah, invece per Ask the Maker, se qualche game maker salta fuori, si può fare una scappatella e via. Se saltano fuori, visto che non saltano più fuori. In teoria avrei un mezzo contatto con il timido dell'Audio Galassia, solo che è impegnatissimo col lavoro. Beato. Quindi, chiusa questa parentesi dei necrologi, iniziamo con la puntata vera e propria, se così si può chiamare. Visto che sti qua vogliono far iniziare me, che io sono quello che oggi parlerà solo del male, inizio io. Quindi preparatevi a deprimervi, perché vi esporrò la cruda e la cruda... Sono appena andati via 10 visualizzatori, bravo. Erano così tanti. La cruda e fredda realtà del game making. Visto, non parliamo di videogiochi, parliamo del concetto che sta dietro ai videogiochi. Visto che questi giorni ne sto parlando anche troppo, continuiamo, dai, è divertente. È divertente insultare a destra e a manca gente che se lo merita, sostanzialmente. E Tales of Symphony. E Monkey Island. E tutto ciò che riguarda Monkey Island, che non sia il primo Monkey Island, o il secondo Monkey Island, o il terzo Monkey Island. Esatto. O il quarto. Parla di Tales of Monkey Island e basta. No, sì, esatto. I fangame annessi e connessi anche. No, Escape from Monkey Island si salva. Vabbè, non parliamo di Monkey Island per adesso. Allora, esponiamo la fredda e dura esistenza del game making italiano e anche portoricano e anche portoghese, del Portugal. Allora, innanzitutto iniziamo con cosa secondo me si basano i videogiochi. Potenzialmente i videogiochi sono o forma d'arte o bene di consumo. Cioè, un videogioco può essere fatto per innovazione artistica o per essere uguale a un costoso pacchetto di sigarette. Cioè, l'hai finito? Bene. niente, è passato del tempo. Invece, un videogioco fatto per essere opera d'arte innova, non obbligatoriamente, oppure comunque arricchisce la vita del giocatore con momenti, esperienze. Cioè, sembra stupido dire che un videogioco fa questo, ma come lo fa un libro lo può fare anche un videogioco fatto bene. Perché un videogioco fatto bene è alla fine cos'è? È un libro però con momenti di interazione e immagini. Che ogni forma d'arte in teoria fa queste cose. Sì, esatto. Però non, cioè, l'arte è un concetto che può essere utilizzato per... Io l'arte, ho studiato arte per quanti cazzo di anni? 8 anni. E quindi ne so parecchio. Come giustamente diceva il mio prof di scultura, chiunque può definirsi artista e chiunque può definire quello che fa arte. Ma ciò non vuol dire che lo sia all'occhio di tutti, è questo il fatto. Cioè, tu vieni riconosciuto artista e le tue opere come arte quando sono gli altri artisti a riconoscerle tale. Cioè, tu puoi, che ne so, prendere un foglio di carta, no? E sputarci dentro. E tu dici che questo è arte. Finché gli altri artisti o comunque le persone tue uguali in quello che vuoi fare non considerano la tua opera tale, sostanzialmente non lo è. Non lo è oggettivamente. In realtà lo è comunque perché ci sono troppi sottodiscorsi da fare in questo caso. C'è da dire che comunque ci sono gli stronzi che dicono di aver capito e non hanno capito. Normalmente sono i critici, perché i critici sono una figura inutile. Cos'è un critico? Un critico è uno che non sa fare e allora parla. Normalmente si dice che chi non sa fare insegna. In realtà è chi non sa fare critica. Perché il critico cos'è? È uno a cui piace un universo qualunque esso sia creativo, ad esempio. Un critico di fantasy è uno a cui piace il fantasy, che ha letto un sacco di roba fantasy, sa la storia del genere e tutti gli annessi e connessi, però non è in grado di scrivere qualcosa o creare qualcosa di fantasy come si deve, e quindi critica, perché non è in grado. Cioè, lui quel mondo lo conosce e ha le basi per parlarne, però diventa critico quando lui scopre di non essere in grado di aggiungere qualcosa di vero. E quindi il critico sostanzialmente è una figura inutile. È una consolazione, diciamo, perché non riesce ad accettare il fatto che lui ha studiato tanto questa cosa, ma alla fine non riesce a tirarne fuori nulla. Sì, è il contentino. E quindi spesso il critico nasconde risentimento e invidia verso ciò che critica, perché lui non è in grado di farlo e vede persone che magari lui considera meno colte, perché lui comunque il critico normalmente ne sa. E meno colte, che hanno studiato meno, che sono più giovani, che sono più capaci, e non riesce a capacitarsi che hanno fatto quello che lui vorrebbe fare e non riesce a fare. Ma avere talento non è. Cioè, il talento o ce l'hai o non ce l'hai. Purtroppo, nella critica moderna ci sono dei critici artistici che hanno detto che l'artista maledetto non esiste. E l'artista che nasce artista non c'è. In realtà tutti quelli che hanno una buona idea sono artisti. Secondo me sono emerite cazzate. Un artista nasce artista. Uno che ha buone idee o che sa fare determinate cose ma non è completo non è un artista. Cioè uno che, ad esempio, un regista, secondo me, deve sia sapere, cioè deve scriversi le sceneggiature da solo. Un regista che non è in grado di scriversi una sceneggiatura come si deve è incompleto, non è un artista. Lo stesso vale per lo sceneggiatore che non sa dirigere la sua sceneggiatura. Lui è uno scribacchino, non è un artista. E purtroppo è pieno di gente. Ad esempio, nei fumetti c'è quello che sa solo disegnare e quello che sa solo scrivere. Sono due artigiani che si mettono assieme per fare qualcosa, ma non sono artisti, purtroppo. Nel fumetto, cioè, lo sceneggiatore volendo sì, perché lo sceneggiatore può essere scrittore, ma lo sceneggiatore che vorrebbe diventare fumettista e non ci riesce, allora è incompleto. Mentre il fumettista che sa solo disegnare e non sa sceneggiare, è uno che sa disegnare e non è un artista, fine della storia. Qui non ci scappi. Non la pensano così le altre persone, cazzi loro. Le altre persone non sono artisti, probabilmente. Vabbè, detto questo, per i videogiochi funziona uguale. Abbiamo i critici che non capiscono un cazzo di niente perché sono solo persone invidiose. e incomplete. E abbiamo la scelta esistenziale: o vuoi fare i soldi o vuoi esprimere la tua creatività. La Telltale Game vuol fare i soldi. La Telltale Game compra licenze famose perché vendono. Solo avere il nome Monkey Island nel tuo videogioco vende sicuro centinaia di migliaia di copie. Poi il videogioco fa schifo per vari aspetti, ma tutti diranno che è bello perché è Monkey Island. Monkey Island è la gallina dalle uova d'oro in questo caso. E non è solo la Telltale Game che fa così, anche Stephen King che continua a scrivere minchiate perché ha avuto il suo periodo d'oro e adesso la gente continua a comprare perché il nome King è diventato un brand. Infatti l'arte dagli anni 80 introduce anche gli artisti che fanno del loro nome un brand. Praticamente l'artista lavora più sulla sua figura personale, sul suo nome, sul suo marchio, che sulle sue opere, che opere tra virgolette, visto che stiamo parlando di gente che, vabbè, tanto per fare dei nomi, Damien Hirst, Jeff Koons o Constabi, ovvero tre deficienti, che sono tra i tre deficienti più ricchi del mondo comunque. Semplicemente lavorano sulla loro figura per rendere il loro nome uguale al nome di Calvin Klein, per dire. Cioè, se uno compra un paio di jeans solo perché sopra c'è scritto Calvin Klein, questi artisti funzionano uguale. La loro opera non vale un cazzo, però c'è il loro nome che hanno fatto diventare un brand come Coca-Cola e quindi vende. Non è più la sostanza che vende, è solo il nome, la firma. Per Il marchio. i videogiochi è uguale. Cioè, siamo arrivati al punto che Monkey Island vende solo perché nel nome c'è Monkey Island. Resident Evil vende solo perché nel nome c'è Resident Evil. E possiamo fare l'esempio per tante altre cose: Silent Hill, Call of Duty, Final Fantasy. Tutti i brand famosi che conosciamo da anni possono far cagare quanto vuoi, ma venderanno sempre troppo perché è famoso, lo senti nominare sempre e. Per alcuni è quasi una certezza. Quindi, lavorando su questo, il videogioco è solo un mezzo di consumo. Cioè, il fatto che continuino a fare Resident Evil sempre più schifosi, nonostante se avessero chiuso la saga dopo il 4, dopo il 3, dopo il Code Veronica, l'avrebbero chiusa in modo Decente. decente. Sì, avremmo solo giochi decenti con quel nome. Il 4 così così, vabbè. Continuano perché è una gallina dalle uova d'oro, sono soldi. Ogni Resident Evil, che altro non è che un Call of Duty con gli zombie, sono soldi. E Silent Hill hanno fatto uguale. E poi quando è che veniamo a vedere che la saga diventa una merda sostanzialmente? Quando il creatore originale se ne va e un branco di sceneggiatori presi a cazzo di cane prende in mano personaggi, situazioni, idee di un'altra persona e le rielabora. E questa è una puttanata. Vedi Simon the Sorcerer, cosa è diventato, ad esempio. Monkey Island, vabbè, tanto ormai. Solo il 3 ha uno sceneggiatore diverso, eppure è uno sceneggiatore talmente bravo che è riuscito a renderlo credibile. E così via. Perché, cioè, è come se tu lasci un quadro incompiuto e un altro artista ha preso a cazzo, te lo finisce. Che senso ha? Nessun senso. È questo, perché il fatto che non sia lo stesso gioco, ma sia una saga, il fatto di inserirci un'altra persona che ci mette le mani, è comunque come un quadro unico, perché cioè, la saga è un complesso. Se tu prendi in considerazione la saga di come si chiama? Di Simon the Sorcerer, devi prendere in considerazione anche il 3, nonostante non sia un'avventura grafica, perché comunque porta avanti la storia. Che poi venga buttata nel 4, praticamente la storia del 3 l'annullano. Vabbè, come fanno tutti i Monkey Island, che dall'uno all'altro la storia di quello prima la cantonano in due parole, praticamente. Questi sono anche espedienti narrativi piuttosto ridicoli, se vogliamo. Ad esempio, Runaway 3 fa un lavoro della Madonna per dare senso a Runaway 2, che era una minchiata. La trama di Runaway 2 era andata totalmente a puttane. Perché si erano fatti prendere la mano e volevano fare il 3 che fosse un colossal tipo Pirati dei Caraibi, il terzo, no? Dove 300 sottotrame assurde si chiudono tutte. Hanno visto che sarebbe venuta una puttanata, Runaway 3 è un bel gioco e riesce decentemente, anche in modo credibile, a dare un senso a quelle ridicole sottotrame che c'erano nel 2. Sostanzialmente accantona il 2, dice che era tutto che era tutta una puttanata. Però in modo serio lo dice. Però sono stati bravi a non fare una cazzata, perché la pendulo poteva fare Runaway 3, che era un ugulo di puttanate. Se avessero fatto quello che doveva essere il continuo del 2 lineare, sarebbe stato un ugulo di puttanate. Sarebbe stato la sagra dei cliché, come sono i giochi che fanno adesso, tra l'altro. E invece la 9-3 è stata una chiusura decente della saga. Questo anche perché sono sempre loro. La Pendulo sono un gruppo di amici che lavora insieme da anni. Questo comunque dà coerenza a quello che scrivono. Mentre se parliamo di grandi case, ecco che arrivo le puttanate. Cioè, dare in mano un personaggio altrui a un deficiente, a uno che comunque non c'entra un cazzo, non ha senso. Come si fa come nei film. Cioè, se prendiamo la saga di Eraser, da quando i film di Eraser non li ha più scritti Cliff Barker, è diventata una puttanata. I primi due Eraser, vabbè, sono film horror che magari non conoscete, però per dire, nei primi due Eraser c'è una filosofia di fondo che rende l'antagonista, cioè che rende il mostro, quello che coi chiodi in testa famoso, che non è il vero antagonista, è un mezzo. Dal 3 lui diventa un antagonista che vuole distruggere il mondo dal nulla. E così va avanti, cadendo in film sempre più low budget e sceneggiati di merda. Ma questo perché avviene? Perché la licenza viene venduta a cani e porci e non c'è più Cliff Barker, che è un signor scrittore che scrive la sceneggiatura. Ma comunque c'è da dire che nonostante ci sia Cliff Barker dietro, secondo me è così. Tu crei la creatura, ma la creatura la puoi gestire solo tu. O certo. Comunque il gruppo di persone che l'ha creata. Tutti la mentalità del mondo, del personaggio, tutte queste cose qui fanno parte delle caratteristiche delle persone che l'hanno creato, non c'entra qualcun altro. Però può succedere anche che, pur mantenendo lo stesso sceneggiatore, si vada a spremere troppo una mucca da renderla assurda, come succede per i telefilm. Quando un telefilm, anche se i sceneggiatori sono sempre quelli, arriva la sesta stagione, quinta, sesta, iniziano le puttanate, no? Sì, ditemi un telefilm che la quinta stagione non iniziano a comparire angeli o puttanate. Angeli. Ah, ormai. In Buffy gli angeli non ci sono, però in Buffy forse ci sono. Vabbè, diciamo che già la quarta stagione di solito inizia a essere la fine della terza è il canto del cigno di solito. Dalla quarta si inizia a ricorrere a espedienti narrativi veramente assurdi per poter allungare sempre di più il minestrone che stanno facendo. Questo è perché si vuole spremere troppo qualcosa. Ad esempio, sì, giustamente dillo perché è importante. L'ho pur detto, i soldi sono soldi, loro vogliono guadagnarci, esatto. Mi concasso. Se tu inizialmente vuoi fare una trilogia, poi se tu fai un quarto film, stai iniziando già a esagerare, a spremere troppo. Un conto è uno spin-off, lo spin-off è un'altra cosa. Esempi cinematografici, abbiamo i Pirati dei Caraibi che hanno un quarto film che comunque è trattato come uno spin-off, non come un continuo forzato di una trilogia. O anche il quarto di Shrek è una cosa particolare, per dire. Il quarto di Shrek, che è un altro espediente narrativo tipico dei telefilm, ovvero la puntata dedicata al mondo parallelo, per dire. Un telefilm ci arriva sempre a fare la puntata del mondo parallelo. Ecco, non ne parlare perché non l'ho vista quella puntata di Shrek. Non è una puntata, un film. Lo so. E in più c'è anche lo spin-off di Shrek, il gatto con gli stivali. Ah, è vero, sì, l'ho visto, la vero, sì. È carino, Anch'io l'ho visto, non è male. E poi è bello che riescono, nonostante sia ambientato in una sorta di Messico delle favole, ci sono lo stesso i personaggi delle favole, rimane comunque in tema con Shrek. Sì. Però non ho capito se il film è dopo Shrek o prima, dopo probabilmente, sì, per come finisce dopo. Sì, anche secondo me sembra dopo. Sì. Vabbè, e invece parlando di videogiochi, vabbè, è normale, cioè alla fine Silent Hill la storia di Silent Hill si chiude come trilogia, il capitolo 0 è lo spin-off che ci stava, ok, ma Silent Hill 4, vabbè, è una puttanata, è un altro gioco a cui è andato il nome Silent Hill per venderlo, Silent Hill 5 è una puttanata per i bimbi minchia, Silent Hill 6 idem, e via dicendo. Addirittura, ragazzi, hanno fatto Silent Hill multiplayer. Cioè, ma vi rendete conto? Quando? È per la PS Vita, mi sembra. Si chiama Book of qualcosa. Mamma mia. Cioè, il discorso di Silent Hill è che una persona è nel suo inferno personale, se vogliamo. Esatto. È una sorta di percorso di Dante, una via della redenzione, Silent Hill. Il fatto che ci siano più persone che uccidono i mostri a cazzo di cane già distrugge totalmente l'universo magico di Silent Hill. Concordo. Ma chi se ne frega? Dobbiamo fare soldi. Eh sì. Ah, ma però c'è anche da dire che poi, verso alcuni punti di vista, i nuovi giocatori hanno già giocato solo a Silent Hill 5 e 6 e quindi lo conoscono come quel genere di gioco lì. Esatto. Non conoscono l'origine. Ecco, Silent Hill Book of Memories. Sì, che Silent Hill 5 e 6 cosa sono? Silent Hill 2 all'infinito. Perché sostanzialmente la storia ciclica di Silent Hill è 0-1-3. Il 2 nel mezzo. Visto che nel 3 Silent Hill chiude, fanno tanti 2. Perché il 2 sono quei 20 anni tra l'1 e il 3 in cui può succedere tutto. Ed sì, è sempre proprio spremere la stessa cazzo di mucca. Tira i dead da angelo vendicatore di una sola persona, è diventato un mostro che viene sempre perché è figo. Ma vaffanculo. Anche nel film infatti compare così senza motivo. Cioè, veramente assurdo, è assurdo. Silent Hill, la trilogia di Silent Hill è poetica, è veramente, è Lovecraft del ventunesimo secolo. Vabbè, della nostra generazione. Sono riusciti a renderla una commercialata da vomitare, veramente. Viene da star male. E perché questo? Perché il creatore originale, via dalla Konami, ci credo. Ma è sempre così. Solo che chi cazzo ha i diritti della tua saga? La Konami. Ma va, Konami, come cazzo si chiama? Ma poi pensavo, adesso che avevi visto che anche Phoenix Wright fanno il quarto, anche lì la storia è la stessa. Phoenix possono redimerlo, perché Apollo Justice era una merda. Ma probabilmente il quinto potrebbe anche essere una grande delusione. Non lo so. E vabbè, Silent Hill purtroppo credo sia la più grande puttanata, cioè puttanata, quello che è diventato Silent Hill è la più grande scempio della storia dei videogiochi, secondo me. Adesso non mi vengono in mente altri, ma ce ne saranno anche. Final Fantasy, per dire. Resident Evil, per dire un altro. Alone in the Dark, per dirne un altro clamoroso. Alone in the Dark è caduto proprio nel baratro. Alone in the Dark abbiamo una trilogia iper sperimentale che ebbe un coraggio assurdo. Abbiamo il 4 che è la copia di Resident Evil, ma va bene, in quegli anni andava di moda, sono riusciti a dare una personalità, un pochino ci stava Silent Hill 4, Silent Hill 5 è la merda pura, è l'unico gioco da zero banane, l'abbiamo già detto. No, Alone in the Dark 5, non Silent Hill. Alone in the Dark, anche Silent Hill 5, scusate, davvero, comunque. Volevo dire Alone in the Dark 5, quello dove dai fuoco a tutto, ecco, quello è una puttana. Ma anche Silent Hill 5, dai, tanto. Ah sì, Silent Hill 5 è la copia fatta male del 2, quindi per forza. Sai, Silent Hill è molto simile alla saga di Eraser. Praticamente, se Silent Hill 5 e 6 sono la copia del 2 all'infinito, con personaggi diversi, anche nella saga dei film Eraser, il 6 e il 7 sono uguali al 5. È la stessa trama del 5 con personaggi... No, il 7 no, il 7 è diverso. No, aspetta, il 7... Il 7 è il Seeker, o il 6 è il Seeker, cazzo, non mi ricordo più. Hellbound. Ah, ok, no, solo il 6 è uguale al 5, il 7 è una puttanata. Il 7 è quello che c'è la setta in Repubblica Ceca che adorano il re. Sì, comunque non ha senso, perché dopo il 5 tu fai il 6 che è la stessa cosa. Sì, e poi fai film sempre più idioti, dove il... Vabbè, lasciamo perdere, non c'è truccato qui. Perché non penso che era Riccardo, capisco. Ma anche comunque Razer è una saga, cioè, a parte i primi tre, gli altri sono trash, non li conosce nessuno. Soprattutto l'ultimo, il 9 è una puttanata assurda. Questa la dovete sapere. Perché hanno girato Silent Hill Razer 9? Perché la Dimension Extreme comprò i diritti della licenza di Razer, no? Però per 5 anni, mi sembra, durino una dei diritti. Non l'hanno fatto nessun film. Quando mancavano 2 settimane alla scadenza dei diritti, sono corsi ai ripari, hanno preso attori alla cazzo, hanno affittato un appartamento e hanno girato il Razer 9. Cioè, non l'ho visto, ma oso immaginare che cosa è uscito. Ti rendi conto? è terribile sta cosa, vabbè. Considerando che il mitico Roger Corman girava film in 5 giorni. Vabbè, ma Roger Corman era Roger Corman. Lui non aveva bisogno di affittare i locali. No, lui aveva i suoi studi. E ha 3.000 allievi che sono incapaci, ma va bene lo stesso. Basta parlare di cinema. Parliamo di videogiochi. E più che altro sto parlando da troppo tempo. Iniziamo a restringere il discorso. Comunque sto parlando del discorso che fare videogiochi per arte è completamente diverso che fare videogiochi per commercialata. Ad esempio, un videogioco commerciale è uno che ha come la protagonista tettona la Lara Croft. Come le avventure grafiche dal 2000 in poi, se la protagonista è femminile è una strafiga della Madonna. Vedi Kate Walker, Nina Kalenkov, come cazzo si chiama, Secret File, quella di Longest Journey e così via, quella di Chronicles of Mystery, tutte strafighe, tutte studentesse di archeologia, tra l'altro, strafighe. Ian Basco non è come loro. No, per fortuna. Però è anche lui uno studente. Nina di Brian Basco, vabbè, erano spogliarellista, quindi ci sta. Brian Basco è un deficiente. Sì, Brian Basco è un deficiente. Io l'ho sempre odiato. Invece, cioè, anche questa cosa, cioè, se pensiamo a, vabbè, Day of Tentacle è comico, però pensate alla Verne, la nerd per eccellenza, cioè. È così, cioè, non è realistico, a parte che non è realistico che le studenti di archeologia sono delle top model. Tu sei mai andato in un'università di archeologia? Sì, era vicino alla mia, e le ho viste le archeologhe, non sono così. Ma sarà la piscina di, cioè, sono carine, ma non sono top model. C'hanno la piscina di fianco. Sì, vabbè, a parte il fatto che prima ho letto che Lara Croft, il fatto che ha le tette abnormi è nato per scherzo. Ho letto su Games Italia che ne parlano. Praticamente il disegnatore stava facendo i bozzetti per il personaggio e ne ha fatto uno per ridere, dove aveva le tette giganti. Quando l'hanno visto gli altri del team hanno detto, oh sì, usiamo questa. Quindi? Quindi Lara Croft maggiorata è nata per scherzo. Ed è nel Guinness dei primati come donna dei videogiochi più famosa. Beh, quello mi sembra palese. Vabbè. Però lo stesso vale anche, vabbè, comunque per i maschi, di solito i maschi protagonisti delle avventure graffiche sono sciatti e rincoglioniti. Non hanno le tette grosse. Meno male che non ce le hanno. Infatti chi la vince qui, come sempre, spezzo due lance, anche tre, a favore della Daedalic, come cazzo si pronuncia, dove i loro protagonisti sono terra-terra. Vedi Deponia. Viva la Daedalic. In Deponia c'è anche il fanservice. Vai, te scrivi screenshot. Il fanservice è quello che chi guarda i manga e gli anime definisce le scene dove ci sono semi nudi o nudi così a cazzo di cane, o palpeggiamenti. E se tu scrivi Deponia screenshot, troverai uno dove c'è la coprotagonista che si fa la doccia e viene presa dalle guardie, per dire, ma tanto. Il fanservice vende. Tu ci hai giocato? No, perché non ho i soldi per comprarlo. Ah. Il fanservice vende, questo si sa. Vabbè. Sicuramente anche Super Mario su Mario sa del fanservice, cioè, assurdo. Se tu guardavi le pubblicità che aveva Runaway 2 qui in Italia nei giornali, c'era sfilza di screenshot e sopra c'era Lochelani in ginocchio. Presente sì, Lochelani? Sì. Ecco, questo la dice già tutto, cioè... Ce l'ho quella pubblicità a una rivista, ce l'ho. Sì, anch'io ce l'ho. Una hawaiana maggiorata in ginocchio che ti fa l'occhiolino, vabbè. Sì, sì. Lo stesso vale per la copertina di Runaway 2, che c'è Nina in costume, ma non solo Runaway, per dire, è normale che si usi il fanservice per vendere. Vedi Larry, vabbè, Larry è la base del gioco, quello. Sì, Larry è la base. Il più bello è Laser Sweet Larry 5, Passionate Patty and Air Pulsanti Pectoral, lì come e suoi pulsanti pettorali. No, sono meravigliosi. Love però ci vuole tanto a provare a dire il titolo del gioco. Io qua me li ricordo. Vabbè, comunque, ad esempio, il fanservice vende, però non vuol dire che tu diventi commerciale totalmente. Cioè, diciamo, Deponia, ad esempio, lo usa in una scena che ha reso pubblica come screenshot perché ammicca. però non vuol dire che tutto il gioco sia pieno di lei nuda, infatti non è così. Diciamo che il fanservice può servire, però può esagerare. Tipo l'altra volta guardavamo su Zodiac quel gioco con gli zombie, vi ricordate? Sì. Dove le protagoniste erano una band dark, dove erano tutte nude, mezze nude praticamente. Oppure un altro, ad esempio, è un'avventura grafica episodi che ho scoperto l'altro giorno grazie al blog di Largo la Grande, che si chiama Ark, sesso, bugie e compiti. Posso, che posso capire che cosa... è un'avventura grafica episodi ambientata in un liceo spagnolo, credo, dove la protagonista, nonostante vada al liceo, è come Lara Croft. Adesso vado se lo trovo. Studentessa di archeologia. Com'è che si chiama questa serie? Ark, mi e sembra. Come è scritto? A-R-K, solo che Ark, detto così... Infatti... Lo sto cercando, ma adesso te lo trovo. Sì, vabbè. No, perché non l'avevo mai sentito parlare. Infatti non è molto pubblicizzata. È ancora il primo episodio e credo che stiano raccogliendo soldi per fare gli altri con il back funding lì, come cazzo si chiama. Ah, sì. E la regola grande. Vediamo se trovo il tuo blog. Vabbè, e comunque sto ancora dilagando. Sì, comunque alla fine non stai parlando. Sì, alla fine sto solo di tutto. Sto parlando un po' in generale. Dobbiamo chiudere sta cosa. Allora, dicevo, il fanservice, vabbè, chi se ne frega. Sostanzialmente la scelta fondamentale è questa. Il problema cos'è? Il mercato. Cioè, chi fa videogiochi normalmente lo fa di lavoro. Quindi se tu devi farci soldi, o comunque devi farti produrre il tuo gioco, purtroppo di cose devi scendere a compromessi. A meno che non sei una realtà che può permetterselo, una realtà affermata. Ad esempio, la Pendulo poteva essere considerata una realtà affermata, ma visto che per Day One sono ricorsi a Kickstarter e non hanno neanche raccolto i soldi, mi sa che non sono più tanto affermati. Trovato blog di Largo la Grande. Adesso vi faccio vedere questa avventura grafica perché vale la pena vedere. Deponia, che bello, lo voglio. Lo voglio. Ecco, ad esempio, ecco un'altra cosa che ne abbiamo già parlato anche in una vecchia puntata. Come Jane Jensen presenta il suo nuovo gioco, che la presentazione del nuovo gioco di Jane Jensen sembra di vedere Runaway. Te lo ricordi? Sì, è vero, sì. Si chiama Moebius. Quello in Venezia, a Venezia. Sì, sembrerebbe Venezia. C'è la tipa che scappa dagli inseguitori nelle vie di Venezia, c'è un grand'angolo che fa vedere la scena. Il protagonista sembra un protagonista di un fumetto Bonelli italiano e si chiama Malachi Rector. Vabbè, Malachia probabilmente, Malachi. E i fondi sembrano stile comunque che conosciamo già, quelli normali alla Runaway 3, dai, se proprio vogliamo scendere. Se proprio vogliamo dare un nome, ovviamente non è che li ha inventati la Pendulo sti sfondi così, però sì, quelli sì, che siamo abituati a vedere nei loro giochi. Tutti questi elementi non sono un male, però fanno vedere che già percorrono strade ben note. Ovviamente sappiamo che Jane Jensen è bravissima e quindi verrà fuori una trama della Madonna, si spera. Vedi Grey Matter. Qual è il problema però? Quando tu sei così affermato da dire verrà fuori una trama della Madonna, se scazzi è un casino. Esatto. Cioè Monkey Island è un brand, quindi tu non te la prendi col brand se il gioco fa schifo. E comunque non diranno mai che fa schifo perché Monkey Island ormai è diventato Zeus delle avventure grafiche. Quindi anche una merda con scritto sopra Monkey Island venderebbe e direbbe tutti che è bellissima. La gente la compra. Sì. E invece, se tu sei una persona, ad esempio a Love che si rimette in gioco, Jane Jensen che si rimette in gioco, i due Guys of Andromeda, e fai un flop, non ti parano il culo, lì ti seguono le gambe. Mentre ho visto leccare il culo in tutti i modi possibili sempre a Ron Gilbert. Cioè Ron Gilbert ha fatto solo un gioco degno di nota alla fine, gli altri sono mediocri, però la gente gli lecca il culo, cioè... C'è gente che dice che Deathspank è un capolavoro, gente che dice che Ron Gilbert è il dio dei videogiochi perché ha fatto Deathspank. Ma in che mondo viviamo, non ragazzi? Per Monkey Island, per Death, no, Spank. No, non per Monkey Secret Deathspank o Monkey Island 2, per Deathspank. Cioè, arrivare al punto di dire che lui fa solo giochi belli perché ha fatto Secret of Monkey Island e Monkey Island 2 è assurdo. È un'altra cosa, poi chiudo il discorso. Che nell'inventario c'ha il panino, c'ha... questa è un'immagine di Schaffer con lo scum sotto e c'ha un inventario. Il vino, la roba sì, io gli avrei messo un panino a Schaffer. Si chiama ecco, si chiama R-K sexo mentitas ai trabajo de classe, e la protagonista è una nerd maggiorata che avrà un reggiseno abbastanza buono, perché se stanno su queste avrà un bel push up. C'è il sito, no, c'è la recensione, te lo link. Lui ha provato il primo capitolo, quindi se vuoi leggere un po', sembra molto corto questo. Vabbè, tanto finché l'avventura escono episodi, la qualità è proprio minimi dei minimi. Sì, vabbè, ma stories. Va a lunghezza di pop, dai, sai, insomma, compenso. Circonferenza, non dico. Sì. Vabbè, è uguale, stessa cosa. Dico l'ultima cosa, poi basta, dai. Ecco, un'altra cosa. Sono le persone che hanno il colpo di fortuna e poi vengono glorificate tutta la vita. Un esempio, Akira Toriyama. Akira Toriyama può fare qualsiasi cosa e verrà sempre adorato. Ma Toriyama di buono cosa ha fatto? Dragon Ball, basta. Arale era una menata. Cioè, Arale dopo è andato, ha venduto, perché lui dopo ha fatto Dragon Ball. Cioè, esistono tante figure come Toriyama che... Uno su tutti, quello dei Cavalieri dello Zodiaco, Masami Kurumada. Cioè, lui di buono ha fatto solo i Cavalieri e adesso li sta spremendo come mucche. Ma esistono tante figure come queste. Uno è Ron Gilbert, uno è Tim Schafer. Cioè, uno o due giochi decenti e basta. Perché non sono certezze. Sono persone che in un certo momento della loro vita sono state ispirate, hanno avuto colpi di fortuna o hanno comunque sono state ispirate per un certo momento. Cioè, ad esempio... Se tu per 10 anni non fai più videogiochi, è molto probabile che sei arrugginito. Cioè, un conto è avere talento, ma bisogna anche rimanere aggiornati, perché fare qualcosa vuol dire essere informati del settore. Se tu fai videogiochi, devi per forza di cose giocare ai videogiochi. Uno che fa videogiochi non giocando ai videogiochi è uno che farà una minchiata. Un esempio... che adesso, non so se lo sapete, la Bonelli Editore è morto Sergio Bonelli mesi fa. Presente? Sì, sì, ho anche sentito, l'ho sentito la notizia anche. Suo figlio è diventato il capo, perché è suo figlio, e ha detto subito: io di fumetti non ne capisco niente, capisco solo di marketing, e ha messo come tipo suo vicepresidente che prende le decisioni esecutive sulle serie uno sceneggiatore. È questo che devi fare. Eh sì, uno che ha avuto la scelta giusta, ha fatto. Sì, sì, uno che non capisce di fumetti non può fare il lettore di bozze a provare le cose. Un altro esempio invece è il wrestling. Nella WWE Vince McMahon prende tutte le decisioni ma non capisce un cazzo di wrestling e si vede il prodotto finale. Perché è vecchio comunque, dai. Perché sì, lui è di un'altra generazione. Sostanzialmente è questo, se sei vecchio devi rimanere aggiornato. Per poter operare in un settore qualsiasi devi conoscere a menadito il settore. Uno, perché non devi fare cose che hanno fatto altri. Due, perché devi relazionarti con le cose che fanno gli altri. Cioè, non pensate che la LucasArts non sapesse cosa faceva, non provasse i giochi della Sierra, non sapesse com'erano, idem la Sierra. Infatti si lanciavo le frecciatine nei giochi. Tipo in Monkey Island 3, quando muori, dicono, io pensavo che solo nei giochi della Sierra si potesse morire. No, non dice proprio così. Però. Sì, vabbè. Tra il senso è quello. Tra le righe dice: io pensavo che non si potesse morire nelle avventure Lucas. Sì, però è come dire Sierra, perché e lo stesso nella Sierra, però in questo momento non mi ricordo più la citazione, non me la ricordo più purtroppo, forse era in Freddy Farkas addirittura. E vabbè. Però una cosa che mi sta sul cazzo, che ne parlavamo con Kug quando l'ho intervistato, questa è l'ultima cosa, ve lo giuro. In Italia idolatriamo la Lucas perché? Perché la Lucas aveva una distribuzione migliore. La Sierra ha avuto la distribuzione più tarda e comunque non tutti erano in italiano. La Lucas aveva la CTO. Quindi in Italia sembra che le avventure Luca siano 10 volte superiori a quelle Sierra. Io personalmente dico sti cazzi, perché la Lucas ha pochi titoli buoni e molta roba mediocre, e nel complesso sono pochi i giochi, se li metti tutti assieme. La Sierra ha una produzione vastissima e di qualità sempre continua, cioè non hanno alti e bassi, anzi sempre in crescita sono andati. E soprattutto la Sierra si rivolgeva a tutti i target di pubblico. C'era EcoQuest per i bambini, c'era l'Exosuit Larry per gli adulti o comunque gli adolescenti. Per chi piacevano le belle sceneggiature aveva Gabriel Knight o Polish Quest, King Quest per chi voleva ridere, comunque avere una storia fantasy e così via, e Space Quest e ne avrei da dire. E invece la Lucas era quello che era, c'erano buoni giochi, ma appunto c'erano alti e bassi. Se c'era il gioco da 10, c'era anche il gioco da 6 scarso. Però siccome in Italia la Lucas è idolatrata, sono tutti da 8, da 10. Cioè mi vengono a dire che Zack McCracken e Maniac Mansion sono dei capolavori quando sono giochi mediocri, diciamoci la verità. Sono d'accordo. Ma mediocri, mediocri. Sì, Maniac Mansion non è che ti prenda tanto. Ma comunque... Maniac Mansion forse è anche sotto il mediocre. Perché comunque non ha una gran rigiocabilità ed è un gioco corto nel complesso. E niente, è così, è così. Basta, io dovevo parlare di game making, invece ho parlato del mercato dei videogiochi, di commerciale e artistico. Di... In un podcast dedicato alle recensioni dei videogiochi. Beh, sì, ma io come se si parlato di tutto il genere, sostanzialmente. Come tu quando hai fatto la recensione sui mobile hai parlato di tutti quelli che esistono. Sì, però hai fatto recensione su un genere di giochi, vabbè, fa niente, lascia stare. No, no, sì, lo so, però bene o male io ho raccolto tutte le avventure grafiche, ne ho parlato per termini commerciali però. Vabbè, e niente, chiudo qui e dico che sinceramente il mercato delle avventure grafiche sta riprendendo. Allora, c'è la gente che dice che nel 2002-2000 sono morte avventure grafiche. Questa gente non capisce un cazzo. Questa gente semplicemente dice: oh, la Lucas non c'è più, adesso chi mi succhia il cazzo? Sostanzialmente le persone brave ci sono, il problema è che nessuno vuole investire. Allora cosa è successo? La Telltale, che di soldi ne aveva tanti, è arrivata, ha fatto le sue merdate, ha lanciato la moda degli episodi perché con l'episodio risparmi e riesci a coprire le spese. E hanno soprattutto guadagni di più, perché se un episodio ti costa 19 euro... Sì, e poi soprattutto la gente compra sia gli episodi e poi quando ha finito si compra anche tutta la raccolta. Esatto. E hanno lanciato sta moda del cazzo che sta uccidendo il genere, perché un'avventura episodi... non è, sarà mai, mai, mai come Grim Fandango, come Monkey Island 3, come quel cazzo che vuoi. Perché o come un'avventura bellissima che ho scoperto, che ho giocato da poco e mi è piaciuta tantissimo, Discworld Noir. Perché quelli sono colossal, cioè quello ti tiene come un film. L'avventura episodica sono degli antipasti di merda su. Sì. Anche perché... l'episodio è fatto apposta per tenerti sulle spine, per chiudersi così, ma ti tiene mezz'ora e costa tanto. E la sostanza cos'è? Niente. Ma va, la Telltale dovrebbe bruciare, hanno ammazzato il genere per degli anni. Fortunatamente la Pendula, la Deadelic, tante nuove, e la Widget AI, lì come cazzo si chiama, sì. Tante nuove realtà sono nate, sono sviluppate e hanno riportato il genere a come deve essere, perché grafica, episodi solo in digital delivery sono la morte del genere. Infatti stavo quasi per dire la stessa cosa, ecco, stavo per citare che... proprio come cavolo si dice, Daedalic. Io la scrivo anche male sempre, tanto poi c'è Google che risolve tutto. Io quando leggo le recensioni altrui dico: ah, ma si scrive così, ma lo sbaglio sempre, e poi la sbaglio lo stesso. No, sostanzialmente, diciamoci la verità, dire che le avventure grafiche sono morte con Escape from Monkey Island è una stronzata. Cioè, tutti leccano il culo a Grim Fandango perché che fanno bene, ma poi a Monkey Island 4 no perché in 3D, ma vada. Cioè, se fosse uscito Full Throttle 2 e Sam & Max Freelance Police, che erano in 3D col Grime anche loro, sarebbero stati sicuramente meglio di qualsiasi merda che ci ha fatto la Telltale Game. Fine. Mi chiudo qui, basta. Se no, non finisco più. Ta-ta-tan. Ta-ta-tan, come in Born Together. Ok, chi tocca? Bella domanda. Hai tenuto un'ora. Un'ora? No, no, vabbè, più o meno. Dai. La registrazione non è iniziata alle 3:30. Abbiamo iniziato a parlare per i casti nostri 3:30. Sì. Dai, Riccardo, tocca a te. Lo devo dire. Rincoglionito dai vostri discorsi. Fate un caffè. No, è vero, nella domanda del questionario c'erano anche quanti caffè avevo bevuto. Ma li hai bevuto nella tua vita? No, no, quanti caffè bevo al giorno. La gente non lo sa del questionario. Oggi Riccardo no, ha scritto soltanto non rompere i coglioni, solo il 22esimo. Vedi, vedi, è lo stress questo. No, c'era anche la domanda, c'è tensione in casa tua? La mia risposta è stata sì, 220 volte. Cioè. Ogni caffè. Avete visto il link dell'avventura Ark? Sì, sì. Non lo so, giustamente l'avventura Ark esce come i giochi Telltale, ma vabbè. E a me infatti non ispira più di tanto. 10 euro episodio. Sì, se la tengono allora. Cioè, per un totale di 50 euro, per avere dei byte. Vabbè, in fisica dei libri non ne parliamo. Boh, volevo recensire come ultimo gioco di questa ultima puntata Mario Kart. Diciamo ultima puntata della prima stagione, ok? Così non c'è. Quindi quando arriviamo alla quarta iniziano a comparire Vangeli, Vampir. Angeli, no, gli angeli ci sono per forza. Allora, io spero le comprimarie tettone più che altro, però. Parlando della saga in sé di Mario Kart, yes. È un gioco nato per Super Nintendo nel 1992, col nome di Super Mario Kart. Bellissimo gioco. Basta andare su Wikipedia, queste informazioni erano abbastanza scontate. Dimmi. Comunque, io vi parlerò dei giochi, diciamo, per il gioco del Wii e Nintendo DS, quelli che ho giocato io, diciamo. Mario Kart ovviamente è un gioco di corse in kart, diciamo, alla fine possiamo dire macchine, anche se poi ci sono anche, adesso non so in quali versioni è state introdotte, ma almeno già nella versione DS c'erano già anche le moto, diciamo, quindi non so se prima c'erano quello del DS, prima non c'erano, esatto, mi sembrava una cosa simile. Ok, ovviamente è un gioco, diciamo, di corse classico, in realtà no, in realtà è un po' particolare, perché ha come particolarità che, oltre al fatto che i corridori sono tutti personaggi di Super Mario, praticamente le corse sono, diciamo, truccate dagli strumenti, niente, oggetti che trovi in giro, armi, diciamo, si possono chiamare, che sono ovviamente oggetti inerenti al mondo di Super Mario. Mario Kart per Nintendo DS è uscito alla fine del 2005. Praticamente ha come particolarità il fatto di avere un buon multiplayer per poter giocare anche con gente che non aveva il gioco, cioè, anche avendo due DS, uno con Mario Kart e l'altro senza, si poteva comunque giocare in multiplayer. Ovviamente, esatto, ti dava il personaggio apposito, un personaggio apposito che era bilanciato, diciamo, non potevi scegliere tra tutti i personaggi, però volendo, tipo, che so, ti radunavi con 4-5 amici, potevi fare una partita Mario Kart tutti insieme avendo un solo dischetto, senza che tutti si debbano comprare le cose. E questo è una buona idea. È stato uno dei primi giochi ad introdurre la Wi-Fi connection. Praticamente la connessione internet del DS, la connessione tra i server Nintendo. Uno dei primi giochi che introduce questa, diciamo, cosa. Ovviamente le funzioni classiche, diciamo, di solito sono le classiche corse, e poi ci sono anche la modalità battaglia, che non sono altro che minigiochi, alla fine multiplayer, vabbè, puoi giocare anche contro personaggi controllati da computer, dove praticamente devi fare cose particolari, come colpire con vari oggetti gli altri per farli perdere dei palloncini, o raccogliere delle monetine, dei soli, sono, in giro, e facendoli perdere sempre colpendoli. Però diciamo che ci concentreremo più sulle corse in sé. Le corse praticamente diciamo, vengono fatte in vari, ci sono tantissime piste, Ogni pista viene classificata in un trofeo. Praticamente facendo la modalità, diciamo, come dire, storia, diciamo, semplicemente facendo la modalità single player con i vari trofei si sbloccano altri trofei con altre piste, altri personaggi e altre vetture, diciamo. Poi cos'altro dire? Le piste sono veramente tante alla fine, non so il numero preciso, ma in ogni caso sono abbastanza, sono tipo ogni trofeo mi pare abbia tipo 5 piste, siano tipo 8 trofei, una roba del genere. Gli strumenti sono anche quelli, sono veramente tanti e vengono introdotti, man mano che escono nuove versioni vengono introdotti altri strumenti nuovi, anche come le piste. A volte certe piste sono, giocando con Nintendo Storiche. DS, sono storiche, sono proprio scritto tipo pista del Nintendo 64, piste così. Sono piste che vengono, diciamo, ereditate. Gli strumenti sono quasi tutti ereditati, tranne ogni volta c'è qualche strumento innovativo. Tipo, che so, la versione Wii c'è il fungo che ti fa diventare gigante, che non esiste nella versione Mario Kart. Però sai comunque tutti gli altri oggetti che c'è nella versione per DS. Però È uscito recentemente la versione per 3DS, Mario Kart 7, quello con Delta che Plus. però non ho giocato, sinceramente, quindi non posso dire niente su questo gioco. Nella pubblicità ho visto che hanno aggiunto il deltaplano. Ah no, aspetta, probabile. Sì, c'erano i commenti tipo: ah, Infatti, il mio preferito è Luigi. leggendo qua su Wikipedia, infatti ci sono un sacco di oggetti che non conosco, che effettivamente sono di altre versioni. Tipo c'è la Sì, ad Super Freya. esempio, c'è quello che ti fa diventare invisibile, c'era nel DS. Mi pare di no. Il Boo lo tolgono nel Wii anche. Nel NES c'era, quello che era il Boo, il fantasma, che diventava invisibile, gli oggetti ti passavano attraverso. Ma in realtà nello SNES c'era anche la piuma che ti sa saltare, dopo l'hanno tolto. Vabbè. Diciamo che è un gioco molto, come dire, divertente secondo me da giocare in multiplayer, perché ti offre buon multiplayer, ognuno ha il suo DS e gioca così. Invece la versione per Wii un pochino più scomodo perché hai nel multiplayer classico, quello tutti nella stessa console, è un po' scomodo, sai, uno schermo, ovviamente sai un televisore piccolo. Però comunque sei un buon televisore, non è così fastidioso. E poi c'è comunque un ottimo multiplayer anche quello, che puoi scegliere tra ricerche di persone, diciamo, a caso da giocare, oppure puoi attraverso il codice amico giocare con persone che conosci. E quindi magari ci si può organizzare in tanti e farsi le partite anche stando ognuno a casa propria, diciamo. Sì, o Metà sta lì. anche abitando nel casino. Diciamo che è uno dei pochi giochi della Nintendo dove la Wi-Fi connection ha un senso, ecco. Sì, del Wii sicuramente. Sì, ma anche nel DS giusto i Pokémon la sfruttavano con la possibilità di scambiare e sfidare gente così. Poi comunque è una funzione entrata nel 2005 con Mario Kart, è una versione abbastanza recente alla fine. Una cosa abbastanza recente. Più che altro è stata poco sfruttata, anche perché i primi DS comunque erano limitati. Tu dovevi modificare il router perché i router avevano la chiave WPA e tu avevi un DS che leggeva solo la chiave WAP. Quindi la maggior parte della gente gli scocciava stare lì a modificare la cifratura della chiave. Invece il Wii puoi mettere tutte, c'era tutte e Anche due, la Wii, accetto. ma anche già dal DSi. No, funziona. Ma alla fine qualunque, cioè, era giusto il DS limitato, qualunque strumento, cioè qualunque apparecchiatura wifi aveva una cifratura, aveva già una cifratura decente, almeno in quell'epoca, cioè, siamo nel 2005, non siamo all'epoca dell'invenzione del wifi. Della ruota. Poi che dire, hai un'ottima, come dire, ogni personaggio e ogni vettura c'hanno, cioè ogni personaggio c'ha un tot di vetture che può usare e ogni vettura c'ha un c'ha delle caratteristiche, magari c'è quella più lenta, quella più veloce, che ha un'accelerazione più veloce, cioè più rapida, che ma però magari va più lenta in fase di massimale. E quindi dopo devi cercarti di di solito la gente tende a utilizzare personaggi più bilanciati, tipo personaggi molto veloci vengono snobbati perché basta che ti becchi tipo una qualunque cosa che ti rallenti, e di solito sono sbilanciati, cioè sono molto veloci però hanno poca accelerazione, quindi tipo ogni volta che vieni rallentato ci metti 2 ore a ripartire, quindi la gente li snobba. Se i personaggi con molta accelerazione, anche quelli vengono snobbati perché in generale vanno lenti. Anche se però, anche se si fermano, comunque ripartono molto velocemente. Quello diciamo che è anche un lato negativo, perché la gente tende ad utilizzare certi personaggi più di altri. Non solo perché ti piace il personaggio, ma solo perché il personaggio effettivamente è più difficile. O è più difficile, o diciamo che è più scarso alla fine. Tipo, se si nota, sono pochi quelli che usano personaggi grossi come Bowser, Wario, Mario Kart, cioè. Mario non è grosso, è medio. Perché lo vedo tra i grossi? Infatti io quando giocavo Wi-Fi la metà dei giocatori usavano tutti il kart normale perché ha le statistiche base. Esatto, perché statistiche bilanciate. Wario non è così obeso da essere considerato come Bowser. Wario veniva utilizzato, no, beh, non è detto, ma Wario veniva considerato tra i grossi, meno come statistiche. Sì, lo so. Tirava le statistiche, io so per... Sì, ma Luigi, è solo alto. Poi, è comunque obeso, comunque. Sì, ma non così tanto. Da pesare come un gorilla e un dinosauro. Ma come un gorilla sì, ma un dinosauro no, effettivamente. Guarda che anche Rosalinda la mettono nei pesanti. Addirittura, è una signora lei. Ci offende. Cosa nasconde sotto quella gonna? Quindi diciamo che ci sono... C'è una buona rigiocabilità perché alla fine tu, almeno in quella per DS, dovevi scegliere tra cilindrata, che alla fine era semplicemente la difficoltà della storia, diciamo, dei vari trofei. Sì. E diciamo che il tuo scopo era finire, comunque ha una buona rigiocabilità perché comunque a parte le tante piste così è divertente farsi una partitella, un po' come un qualunque gioco di corse. Poi sì, ovviamente come tutti i giochi di questo tipo, dopo un po' annoiano, ecco. Ah, per Comunque, forza. i giochi, rigiochi, comunque sempre la stessa storia. Però comunque nel complesso è un buon gioco che vale la pena comprare, cioè se hai una Wii e non hai un Mario Kart, diciamo che... Non hai la Wii. diciamo che sprechi diciamo, le poche potenzialità che ha una Wii, diciamo. Fa parte di quei gruppi di 4-5 titoli che sono quasi obbligatori, diciamo. E sono tutti inerenti a Mario. Sì, alla fine sì. Insomma, sì, diciamo che sono i titoli che sono ricorrenti da anni, diciamo. Come Mario Kart, Super Mario, anche Smash Bros. Così sono tutti titoli che esistono da tanti anni, e ogni volta che esce una console vengono proposti come titoli quasi obbligatori. Sì. C'è un nome per questi titoli di punta, vero? Come si chiama? Esce. Mi viene in mente. Quindi in totale quanti sono in Mario Kart? Erano Killer Application comunque, dovrebbero Ah, ecco, essere. sì. Ah, giusto, Detto, però non sono mai sentito. Ah, non ho sentito. Sì, ma un termine che ho usato sempre te comunque, Pietro. Mi ho preso da te questo termine. Il tema della killer application, sì, Killer. vabbè. Killer. Dire che Mario Galaxy è una killer application ti viene da ridere. Cioè, no, non Mario per... Galaxy non era una killer application in realtà, No. perché non è un titolo che è proposto da anni e anni, è un titolo nuovo. Ovvio che poi lo è diventato perché poi è stato un ottimo gioco e è piaciuto molto, però non è partito come killer application per la Wii. Invece magari, che so, Mario Kart e Super Mario, che sono titoli che esistono da decenni ormai, Ah, quelli pensa erano che già da considerare killer application. Mario Galaxy 2 è il gioco del Wii che ha preso il voto più alto, ha preso il massimo, mi sembra, in generale. Ah, beh, è stato meno. Io non l'ho giocato, Il dico 2, subito. beh, è praticamente Lo è posso come un giocare. remake dell'1 dove hanno messo più variabilità nei posti. Cioè, Anche un po' più lungo. all'inizio ti sembra di giocare all'1 con livelli diversi, poi dopo un po'... vedi che c'ha più è più vario, però comunque hanno migliorato l'uno sostanzialmente. C'è anche Yoshi. Sì, vabbè. Vabbè, come tutti i giochi di Mario, quando tu li vai a rigiocare, noterai sempre che, che è sempre Super Mario. Sì. Non c'è mai una gran differenza tra un gioco e l'altro. Ci sono sempre delle migliorie, diciamo. Non c'è mai una cosa sostanziale. Forse il Sunshine è più diverso dagli altri. Tornando su Mario Kart, se tu giochi Mario Kart per Wii e Mario Kart per DS, noterai che sono praticamente identici. Ah, certo. Come tipo di gioco. Poi magari uno ha qualche strumento in più, qualche funzione in più. Poi vabbè, essendo una con un joystick e l'altra con una console portatile, il stile di gioco è un po' diverso. Anche perché Super Mario Wii c'ha un'ottima cosa che hai presente più modi per guidare, diciamo. Puoi usare un joystick del GameCube, puoi usare il Wiimote tipo a volante, quindi puoi usarlo o con direttamente il volante che di solito ti vendono incluso nel gioco, o puoi comprare separatamente, oppure puoi anche semplicemente usarlo senza volante, mentre usi come se fosse un volante, però un pochino più meno scenico, diciamo. Però il volante gioca a cazzo di... Cioè, ti rende più difficile. È più difficile, perché è più difficile da controllare. Fatto bene, in quel senso sì, lì. Sì. È normale che un volante sia sensibile e difficile da controllare. E poi si può giocare con il nunchuck più Wiimote, stile come se fosse un joystick del GameCube. Praticamente levetta analogica per muoverti. Ok. Io non saprei che altro dire. Le musiche. Le musiche sono le classiche. Esistono da sempre quelle musiche lì ormai. Ma sono Marvelous. Ma sì, sono le classiche musiche da Super Mario, diciamo. Alcune sono molto belle. Tipo nella battaglia, se fai il deserto Twomp, la musica è stupenda. Secondo me. Non so se hai presente. Sì, sono... No, adesso non ho presente quella musica in particolare, però sì, ho presente come sono le musiche. Diciamo, sì, sono abbastanza... Diciamo, ci stanno abbastanza bene, ecco. Anzi. Ovvio che quando sei tipo 5 persone davanti alla... 4 persone, facciamo che 5 non ci possono stare. 4 persone davanti a una console a giocare, a insultarsi a vicenda per le varie cose che ti lanci, la musica non la senti, alla fine. Sì, ci sono molti commenti mentre gioco. Sì, molti commenti di più svariati, dagli insulti alle madri, famiglie varie, così. Vabbè. A volte arrivi anche a quello, arrivi. Poi di solito non si gioca, quando si gioca a Mario Kart in tanti, non si gioca mai solo con le persone che si giocano. Ovviamente tu sai, 4 persone che giochi, più altre 3 persone che stanno aspettando per giocare. Sì, sì. Quindi si forma un gruppo di persone che guardano quello schermo e fanno commenti su tutto quello che succede. Gli spettatori, sì. Cosa abbastanza stressante per chi sta giocando, perché magari è primo e si sta sentendo dire: ah, ma quello è primo, guarda, sta arrivando quello, no, ma perché ha fatto quello? Cose per... Adesso ti ammazzo perché sei primo. Ma lui è gente che ti ricalci per superarti. È vero. Questo comodità, ecco, sai, non, devi lanciare un fungo, il fungo lo manca, cioè il fungo, il guscio lo manca, tu gli lanci un calcio, gli tiri un calcio. Storia vera. Non sono stato io, nemmeno io, Claudio. No, non so cosa parlare. Vabbè, non possiamo fare nomi, purtroppo. Ci sono, si denunciano. Sì. Tanto io sono il campione di Mario Kart mondiale, quindi non ho niente da ridire. Benissimo, diciamo che ho finito la panoramica. Domande? Hai detto che devi prendere patatine, no? No, perché se facevate domande. Te preferisci Wii o DS? DS, direi. No. Sinceramente mi divertivo più sulla Wii, a dire la verità. Perché sulla Wii schermo più grande... Cioè, schermo... Il televisore è schermo più grande. Seduto sul divano. Il DS è schermo più piccolo. Però comunque mi sono piaciuti entrambi. Ho giocato più quello per DS, quello sì. Perché quando avevo Mario Kart era il momento in cui stavo sempre attaccato al DS, era la mia console principale, strumento di svago principale, quindi Mario Kart era un gioco che giocavo molto. Infatti, per dire, quello per la Wii non l'ho come dire, finito tutto, non ho sbloccato tutto, non ho fatto tutto. Invece quello per DS sì, l'ho completato 100%. Ok, qual era il personaggio che usavi di più? Usavo Tartos, mi pare. E poi usavo qualche personaggio a caso, a volte, dipende. Più che altro, ecco, non utilizzavo personaggi lenti, di solito. Cioè, personaggi veloci che un po' di accelerazione. Bowser, Wario, e tutti quelli, li usavo poco, li usavo molto poco. Anche perché probabilmente non sapevo neanche usarli bene, perché sono in realtà sono potrebbero essere anche forti, potrebbero anche essere. Però sono più difficili da utilizzare. Indovinate magari... chi usavo io. No, sicuramente come non Wario. Non è importante, io tanto usavo King Boo e li stracciavo tutti e due, quindi dimostro che i ciccioni sono sempre più forti. Ma non mi hai mai sfidato sul DS, eh? No, sul DS non ci ho mai giocato. Conta che io sul DS sapevo fare le sgommate con l'accelerazione. Derapate. Ma io sono una schiappa a Mario Kart, non vi credete. Sono forte a Smash Bros. Ma non sei più forte di me comunque. Ah, è vero. Te gira chiusi. Ma io ci ho giocato a Mario Kart, ci ho giocato tre volte in tutta la vita su DS. E usavo Yoshi. Ne aprire un pacco di salatini, ma non è una cosa facile. Mi sa che stiamo mangiando tutti, vero? No, io non sto mangiando, io sto litigando con i salatini, che è diverso. Ah, ecco. Io non sto mangiando. Va a prendere da mangiare. Certo. No, dai, mangiamo in faccia ai telespettatori lì. I telespettatori. Radio. Facciamo una specie di Teleton per raccogliere fondi. Facciamo un fundraising su Kickstarter. Servirebbe la meteorologa in topless, però. Se no come li fai i soldi? Allora devi farlo dopo le 22, se no non te lo fanno fare. Se bevo anche? No, beh, butto il microfono. Oh, Riccardo, sei lì o sei scappato a rompere i salatini? Sono qua. Dai il voto a Mario Kart. Allora, dai, prima un voto alla saga, poi a quello del DS e a quello del Wii. Beh, alla saga gli darei un bel 4 banane, dai. Un gran gioco. Invece per il DS... sempre 4 banane. Ui! Tutta fa donkey. Ui! Successo. Ui! Per la Wii? Indovina? Wii 4 banane. Cos'è? Tanto gli do sempre 4 banane. Ma chi l'ha data? Non ho capito. Wii U! Alla Wii U! La Wii U non è ancora riuscita. No, si pronuncia così. Wii U! Ma basta! La Wii U non è uscita? Ah, no. No. Ah, è vero, esce a novembre. È vero. Bene. Chi tocca? Al Super Mario. Super Mario che super gira o super io? Al supremo. Comunque non esce in novembre, sai. Allora, non è proprio scritto niente. Se devo parlare io, parlo del male. Non è del male. Io volevo solamente citare dei miei giochi che ho creato, perché non ho mai avuto la parola, perché Ask the Maker purtroppo non ha spazio per un piccolo game maker, che è purtroppo in associazione con una casa di produzione che viene che lo schiavizza. Però se c'è qualcosa di più importante da dire, lo tengo per ultimo. Bastava che me lo chiedevi, lo facevamo. Ma era troppo. Non gliel'hai chiesto. No, io il mio episodio egocentrico me lo sono fatto. Allora l'hai ammesso. Cosa? Che se tu sei la stessa persona di te stesso. No. Doppiamento si chiama schizofrenia. No, si chiama in modo più garbato è sdoppiamento di personalità. Schizofrenia. Beh, io volevo parlare di Carmageddon, quindi... Oh, sangue finalmente, vai. Vado io? Allora, dato che abbiamo parlato di Mario Kart, che è tutto bello e carino, adesso parliamo di Carmageddon. Adesso ti rinconvido intanto, dopo. Ah no, cazzo, non puoi adesso. Vabbè. Diciamo che è un video che quasi unisce i due giochi. Allora, Carmageddon, gioco di corse si può chiamare, tra virgolette. Volendo. Le macchine ci sono. Le macchine ci sono. Rilasciato nel 97 dalla Stainless Software. Cos'è? È un gioco di corse anche, oltre ad essere un gioco in cui bisogna praticamente far fuori mezzo mondo andandogli addosso con la macchina. Pedoni, mucche e chi più ne ha più ne metta. Mucche girano per strada. Povere mucche. Povere mucche. È famoso anche per essere uno dei titoli più controversi di tutta la storia. Perché è stato censurato milioni e milioni di volte per questa violenza gratuita, diciamo. E fortunatamente in Italia no, però ovviamente in Germania, Dante. dove sto leggendo adesso da Moby Games, che la versione tedesca ha i robot al posto delle persone. Ma basta. Sono sempre gli stessi che hanno voluto gli zombie col sangue verde, cioè. Esatto. E Resident Evil 2. addirittura, e non è l'unica cosa, questi robot sono nascosti nella release standard. Per giocare con i robot bisogna lanciare il gioco da DOS mettendo come aggiunta robots. E così i robot vengono visti. Anche la versione inglese ha avuto un cambiamento di colori, convertendo gli umani in zombie con il sangue verde. Quindi cambiando di colore diventano zombie. Li hanno ritesturizzati. Esatto. E poi è stata rilasciata una patch per farli tornare normali, diciamo. Hai sorvolato la cosa più importante, ovvero che gli indiani hanno voluto che non ci fossero le mucche per rispetto religioso e hanno ragione. Esatto. Infatti lo stavo leggendo I adesso. crocefissi della saga di Castlevania non me ne fottu un cazzo. Delle mucche che sono Non erano animali. i crocefissi, era la morte che diventava negromante, che Anche. girava le lapidi. Invece delle mucche, visto che sono animalista, me ne fotte, va bene? Bene. Allora dovresti scaricarti o comprarti una versione indiana di Carmageddon. Lo farò. Fortunatamente in GTA gli animali non ci sono. Beh, a Vice City non ci sono animali, vero? No, no, non ci sono. Non si sa che fine hanno fatto. Neanche bambini, che strano, vero? È un paese adulto. Prostitute infinite. Quindi, allora, stavo dicendo, in sé è un gioco di corse, sarebbe un gioco di corse. L'idea nasce dal fatto che, e questo l'avevo letto, non mi ricordo dove, che lo sviluppatore all'inizio doveva creare un gioco in stile Destruction Derby, Sì. quindi dove le macchine si distruggevano a vicenda. Poi invece hanno cambiato idea e alla fine è nato questo Carmageddon. La cosa bella è che è rimasta, diciamo, l'idea di un Destruction Derby. Infatti, per completare un percorso non bisogna per forza fare la gara e superare, non so, fare tre giri di pista. Si può o fare giri di pista e si vince arrivando primi, o distruggere tutte le auto presenti nel percorso, oppure uccidere tutti i pedoni. Il problema è che quest'ultimo, uccidere tutti i pedoni, è difficilissimo perché in una mappa ce ne saranno più di 600. Quindi è più semplice distruggere tutte le auto che tutti i pedoni. Poi che altro dire? È stato uno dei primi giochi ad utilizzare. Era un gioco per DOS, però riusciva ad utilizzare l'accelerazione 3D delle schede grafiche di quel momento, diciamo. Per cui. Sì, graficamente chiaramente non è il massimo, anche perché è un gioco del 97, però. È meraviglioso. A me piace. Ma anche a me piace, anche a me graficamente piace, però capisco che no, non è il massimo, nel senso che c'era di meglio anche già nel Sì. 96. Però comunque dopo, quando si utilizza l'accelerazione 3D, il gioco diventa molto fluido No, metti via, metti via. ed è bellissimo da giocare. Poi, che altro dire? I tracciati sono principalmente... cioè, non è quello che in cui giochiamo non è un tracciato, più che altro è una zona di una città, diciamo. Infatti noi possiamo anche non seguire il tracciato e uscire e andare in giro, come ci pare e piace. Infatti, non ci sono molti tracciati. Diciamo che i tracciati saranno 5 o 6, ecco. Per non impazzire a fare tutti quei pedoni, visto che sono 600 tracciati. Esatto, infatti diciamo che i tracciati si dividono più in temi, ecco, c'è, non so, il tema della città, poi c'è il tema della, non so, della industria con i rifiuti tossici, per dire. E i tracciati praticamente sono parte di queste, sono parti prese cioè non a caso, sono parti di queste mappe più grosse, che però possono essere girate a piacimento. Una volta che parte la corsa. Poi, giusto un trucchettino che forse chi ha giocato a Carmageddon lo fa sempre. Appena parte la corsa, c'è il tizio, quello là con la bandiera che sventola la bandiera, Sì. no? Se si investe subito il tizio, riceviamo subito 1000 crediti e sono utilissimi. Ah. Perché gli altri pedoni non so quanto danno, però se si investe, com'è che si chiama? Il giudice di gara, mi pare che si chiama, sì, quello Sì. che dà il via praticamente, e ci danno 1000 crediti, vabbè. Il gioco è stato forse il primo ad utilizzare i danni dinamici, perché la macchina, a seconda di come andiamo a sbattere contro gli altri, si danneggia dinamicamente. Le auto possono essere riparate mentre si fa la corsa, e come danni possono, oltre ad essere danni estetici, ci sono anche danni proprio di funzionamento, come le ruote o lo sterzo, che praticamente ci impediscono di giocare, che però possono essere riparati pagando con i crediti che riceviamo andando in giro ad ammazzare i pedoni. Poi, ci sono varie auto che però vanno sbloccate. All'inizio del gioco possiamo scegliere tra due personaggi, cioè un uomo e una donna. L'uomo si chiama Max Damage, cioè Sì. spettacolo, e la donna si chiama Diana. L'auto di Max Damage, che è forse quella che si vede in tutti gli screenshot, è la macchina rossa. Sì. È presa da un film del 75, se non mi sbaglio, che si chiama Death Race 2000. Ah, è di Corman, l'avevo citato prima, Roger Corman. Sì, non avevo sentito. È un film di Corman, da 3.000. È presa dall'auto del personaggio principale con un colore diverso. E infatti cioè, se si va a vedere uno screenshot cioè, è uguale. Le auto possono essere potenziate, però sono potenziamenti basilari, nel senso si può aumentare la resistenza ai colpi, aggiungere come si chiamano? Degli spuntoni. Borchie. Esatto, giusto. Anteriori. E niente, quindi si sta molto sugli upgrade della corazza e dei. Degli Cacchio. Ok. La cosa bella è che gli upgrade che facciamo non sono legati all'auto. Quindi se io cambio auto, tutti gli upgrade che ho fatto rimangono. Ah. Quindi non bisogna continuare a riacquistarli. Le auto, come ho detto prima, vanno sbloccate. Per sbloccare le auto bisogna distruggerle, per un certo numero di corse. Quindi ci saranno chiaramente nelle corse, durante le corse ci sono sempre gli stessi piloti. E se distruggiamo la stessa macchina per un certo numero di corse, poi ci viene sbloccata e la possiamo usare. Un'altra caratteristica un po' strana è il fatto che noi in alto a sinistra vediamo la faccia del pilota che abbiamo scelto, che fa varie espressioni a seconda della situazione. A tratti diventa anche un po'. Un po', non lo so, Impaurito, no? esatto. E comunque si può disattivare se non piace. Io sinceramente la tengo attiva perché mi piace vedere che facce fa. Poi vediamo un po' che altro dire. Cioè che la faccia con gli occhi fuori dalle orbite. Sì, quando si o si frena di colpo oppure si va a sbattere a forte velocità. Un'altra caratteristica che al gioco che era nuova è il fatto che c'è una specie di video editor, diciamo, dei replay. Praticamente si possono prendere pezzi dei replay, no? Cambiare le inquadrature per vederli, no, da angolazioni differenti. Non l'ho mai usata questa caratteristica, ma c'è. Poi vediamo un po'. Vabbè, i tracciati sono praticamente fuori di testa, cioè sono robe assurde. Cioè ci sono giri della morte, cioè in città, robe che non esistono nella realtà. Poi si può entrare con l'auto dentro a un campo di rugby, di football americano. E ci sono ancora i giocatori dentro che stanno giocando e noi possiamo passare in mezzo a tutti così. Molto, molto particolare come gioco. Sto guardando adesso la cover della versione italiana e dietro dove c'è una specie di trama, c'è anche scritto, Specie. Una specie. sì, una specie, c'è scritto l'anno 2028, tu sei in corsa per la vita, 25 maniaci al volante, basta. Ecco. E poi c'è scritto: si consiglia la vendita ad un pubblico adulto, i comportamenti riportati in questo videogioco sono sanzionati penalmente. Sì. Ah, wey, ammazzi la gente. Però meno male che almeno la versione italiana non hanno levato i pedoni, almeno li hanno lasciati. Sì, Almeno. da Halifax la quella distribuita. Sì, Halifax. Almeno quello. Poi che altro dire? Le tracce audio. Le tracce audio sono prese da brani della band Fear Factory. Non conosco, e praticamente sono tracce che hanno levato le parti vocali e hanno lasciato solo lo strumentale. Comunque sono brani, diciamo, tendenti al heavy metal, giustamente. Poi vediamo un po'. Ah sì, qua c'è una cosa strana che riguarda il suono, i suoni, gli effetti sonori. C'è scritto che i suoni del motore sono stati presi da svariati posti e anche da svariate auto. Poi, invece, i suoni dei pedoni che urlano e anche quelli di quando gli vai addosso, che è una specie di. Cioè, è un suono, non so come definirlo. Sì, un sibilo, cioè è strano. Sì. Sono stati fatti da il design director, che si chiama Bill, che si rifiuta. Qua c'è scritto, preso da un'intervista, si rifiuta di dire il come. Poi Ecco, non ti sento più. Marco, non ti sento più. Adesso mi senti? Sì, adesso sì. Riccardo, te senti tutti, vero? Sì. È sparito? Sì, vi sento tutti, però se parlo col microfono spento non mi sentite. Ok. È normale, no? Ok, ok. E io parlavo. Convinto. Ah, ok. Convinto anche. Avevo detto che si rifiuta di dire come, ma c'è scritto qua che si pensa che abbiano una dubbia origine questi suoni pedoni. Se si rifiuta è probabile. Sto Bill chissà come è riuscito a prendere i suoni, vabbè. Appunto è stato molto controverso perché è stato il primo gioco a introdurre questa feature, diciamo, questa caratteristica. Il massacro. E chiaramente quando è uscito ha avuto parecchie critiche, però giustamente, cioè, ti sento male. Adesso come mi senti? No, ti perdo la linea, non so, boh. Adesso a scatti. Io sento tutti giusti. Ora? Ora sì. Io sento tutti giusti, vabbè, che strano. Di Carmageddon ne sono state fatte varie versioni, svariate versioni, che però, come forse potete già immaginare, l'unica decente è quella per PC. Sì. Perché la versione PlayStation è stata censurata. La versione Nintendo 64, ne parliamo. L'unica decente tra i porting è quella per iOS, quindi iPad e iPhone. È l'unica decente che è rimasta normale, ma è stata fatta da poco. Tutte le altre sono da evitare proprio come la peste. Poi vediamo un po' che altro dire. Ne sono stati fatti vari seguiti. Sì. Di serie, no? Armageddon. Penso che siano 2 o 3. Sì. Il 2? Ho giocato al 2 e non è male. Il 3 lasciamo stare. Diciamo che tra i 3 preferisco il primo. Sto guardando se quanti sono questi sequel. Carmageddon. Vabbè, dopo lo aggiungerò. No, una cosa non ho detto, che noi all'inizio del gioco praticamente è strutturato come fosse una classifica. Quindi noi partiamo alla posizione 99 e man mano che facciamo le gare continuiamo a salire di graduatoria fino ad arrivare all'1. I tracciati si sbloccano a seconda della graduatoria, tipo c'è il tracciato che richiede posizione 75. Quindi se non arriviamo al posto 75 non possiamo correre. Sì. Quindi è obbligatorio. Facendo tutte se si arriva a sbloccarle tutte. Almeno le che ci ho giocato. Continuo a sentirti a scatti adesso. Ora? Di qualcosa? Ok, non ti sento. Non ti sento, non so perché. Dobbiamo chiudere in bellezza. Aspetta, non ti sento. Riccardo, tu lo senti normale o... io lo sento a scatti. Ma allora, la colpa non è nostra. No, noi siamo innocenti. Adesso? Di una cosa lunga. Sono un cane che sta nella prateria con le pecore. Ok. Abbiamo la sceneggiatura per un gioco. Cos'era l'ultima cosa che stavo dicendo? Allora, adesso mi senti, poi... che c'è la graduatoria da salire per sbloccare le piste. Esatto, però io non ho mai... Cioè, non mi sono mai trovato nella condizione di dover rifare una gara perché non ero salito di graduatoria. Cioè, comunque, facendo tutte le corse, si va tranquillamente alla fine. Poi, vabbè, chiaramente per corriamo ci viene il punteggio a seconda delle nostre... di come ci comportiamo, quindi se... facciamo salti spettacolari oppure uccidiamo i pedoni in modo creativo, ci viene dato un punteggio. Poi ci sono anche dei power up che sono nella forma di dei bidoni esplosivi, quindi quando ci andiamo sopra esplodono senza farci danno, chiaramente. E i power up sono da pedoni incollati alla strada, che quindi non scappano. Poveri pedoni. Adesso non me li ricordo tutti. C'è anche una specie di falce che praticamente quando andiamo addosso ai pedoni rimangono attaccati alla nostra macchina. Ma non è in Carmageddon il clown assassino maledetto? In Carmageddon? Nell'uno no, perché nell'uno hai o il maschio o la femmina, forse ne hai due, boh. Non mi ricordo, perché ho giocato più all'uno che al due. Grazie, ragazzi. Sbagliato di segnare. Vediamo. No, a quanto pare no, me lo sono immaginato. Magari era qualcosa. Sì, è di un altro gioco, sicuramente. Ti confondi con Anthony Quinn. Mi confondo con Anthony Quinn. Ma te per me dici Dead Rising, addirittura. No, non è Dead Rising. Allora non sai Dead Rising. Sì, ma non è... è un gioco di corso, sì. Vabbè, non mi interrompiamo. Allora, passiamo al rank, no, che ho avuto. Alle recensioni, perché sono molto discordanti. Perché qua su Moby Games gli danno 83. Su 100 e poi 3.9 su 5. Però andando a vedere nel dettaglio, quando era la pagina, eccola qua, praticamente ci sono recensioni che vanno da 96 fino a 10 su 100. Che però adesso guardo meglio, magari sì. E quelle minori sono di altre versioni non di quelle per PC. Come avevi già detto prima, no? Che non sono all'altezza. Esatto. Qua ce n'è una di un utente che dice Carmageddon è tasteless, cioè senza gusto. Completamente ridicolo, più brutto di Divine in due pezzi. Non so che cosa vuol dire. È solo un gioco tagliato a metà. Sì, non capisco il perché dei due pezzi. Ed è il mio miglior, ed è il mio gioco preferito di tutti i tempi, quindi... Cioè, diciamo che... più che altro deve colpirti subito, giustamente deve colpirti. Deve piacere, ecco, deve piacerti subito, altrimenti... Infatti un'altra recensione dice divertente all'inizio, brutto dopo. Effetti, dopo un po', chiaramente, essendo un gioco di corse, fai sempre le stesse cose. Certo. Ma è anche logico, cioè, non è che poteva esserci altro da fare. Poi ho letto che, sempre su Kickstarter, dovrebbe esserci un Carmageddon Reincarnation, se non mi sbaglio, che... deve essere in produzione. Però adesso a vedere. C'è anche il sito ufficiale. Armageddon Reincarnation. Nel 2013 si dice che arrivi. Ah, quindi ce l'ha fatta col back funding, gli è andato i soldi. Eh sì, 625.143 dollari. Cioè... Che piccoli. Sì. In totale sono 638.366 perché accettava anche via PayPal. Considerando quanto hanno dato a due obesi per fare un'avventura grafica. Però... Ah sì, no, ma mi pare... No, sì, anche perché avevo visto anche un video di un... non mi ricordo come si chiama la... Quelle fiere tipo le tre, no? Sì. A Londra, non mi ricordo come si chiama la... Eurogames, forse. Dove... è stato presentato Reincarnation, Carmageddon, e all'uscita, cioè all'uscita, all'entrata c'era una Range Rover nera con tutte le... cioè fatta simile all'auto di Max Damage, no? Con tutte le porte e con il sangue disegnato sopra, cioè una roba... No, no, era vero. Eh? Era vero, era vero. Sì, l'avevano usato gli sviluppatori per arrivare fino a lì. Dopo c'era anche la dimostrazione. Quindi, gioco fuori di... divertente, sì, molto. Un po' ripetito. E basta. No, ti sento a scatti ancora. Adesso. Ora. No, non ti sento. Carmageddon. Ok, Carmageddon l'ho sentito. Perfetto. Basta dire Carmageddon e si sente subito. La parola d'ordine. Il tuo microfono che ti controlla in realtà. Quindi l'ultima cosa che avevo detto era gioco fuori di testa. Divertente, però un po' ripetitivo alla lunga. E se c'è una cosa che odio è la polizia che c'è dentro al gioco ogni tanto. Quest'auto è indistruttibile praticamente, che l'unico obiettivo che ha è venire addosso a te. E gli altri no, gli altri concorrenti. Di persone che stanno venire forza addosso al giocatore. Cioè... ecco, una cosa che avevo saltato, mi sono dimenticato, è l'intelligenza artificiale degli altri piloti. Diciamo che a tratti sembra che devono venire sempre tutti addosso a te. Mm-hmm. Arrivi in un punto dove ci sono quattro auto, non è che si scontrano fra di loro, vengono tutti a te. Ecco, l'unica cosa, però... può tralasciare. Avete domande? No. No. In media quanti pedoni hai investito nella tua vita di Carmageddon? Saranno un centinaio forse, facendo una media tra tutte le gare. Anche perché sono talmente piccoli, nel senso, rispetto al tracciato, che non è che li vai a cercare. Cioè capita per sbaglio, almeno per me, a me capita per sbaglio. Magari sto andando addosso una macchina e sono tre pedoni di mezzo. Ok. Ok. Sei libero di dare la tua... il tuo voto al gioco? In banane. Allora, al gioco gli do ben 4 banane. Entra nel firmamento. Nella banana of fame. Con i giochi che da 4 banane. Sì, perché, cioè, ammetto che è un gioco che deve piacere subito, ma io lo reputo forse la cosa più trash e fuori di testa che io abbia giocato. Cioè... probabilmente Grezzo 2 è più trash, però questo qui la vince perché è nel periodo in cui è uscito era proprio innovatore, era sperimentale alla massima potenza. Grezzo se guidasse la macchina. Sì, però la Grezzo l'hanno fatto adesso e bestemmia. Sì, vabbè, si è acculturato. Lo sai cos'è? Grezzo 2 forse non si prende sul serio, nel senso... Sì. Vuole essere per forza così. Invece giocando a Carmageddon, cioè gli sviluppatori lo fanno sembrare come fosse una cosa seria. Sì, sì, c'è anche la trama volendo. È un gioco normale, capito? Lascio la parola. Il prologo nella bocca. Sì, perché è un'opera teatrale. Ok. Ok. Allora Zira chiude qui, quindi tocca a moi. Oui. Eh sì. Eh sì. Ovviamente sono sempre in chiusura, perché ovviamente sarò io quello che verrà sostituito nella seconda stagione da Lucio. Esatto. Hai voluto essere da quale animale? Ma in realtà ci sono forme di fisica o comunque dimensioni parallele dove succede la stessa cosa, quindi... Tanto, adesso che parli tu, ascoltano in due, perché io ho cacciato... Quando ho iniziato a... Ma in realtà allora sempre, perché tu parti per primo. A insultare e bestemmiare prima, ho cacciato tutti gli ascoltatori. Bestemmiare in che senso? Ah, ho detto Telltale, che fa la merda. Telltale è una bestemmia. Per alcuni è una bestemmia, vai. Scusa, parla, io disegno. Vabbè. Insomma, niente, io volevo parlare dei miei due piccoli giochi che ovviamente non hanno avuto il minimo successo, avranno sì e no 5... Ah, si sta facendo pubblicità da solo! Cosa? Cosa? Niente. No, dillo! Niente. Vai avanti. Va bene. Vabbè, io ho capito cosa ha detto, ma... E cosa ha detto? Ti ha paragonato a un certo recensore che si succhia il cazzo da solo, praticamente. No, non ho detto io non mi sto da solo. Si sta facendo pubblicità da solo. Ah, pubblicità hai detto, io ho capito ben altro, scusa. Ah, vabbè. Io penso sempre male. Perché questo qua non si è fatto pubblicità da solo quando si è fatto Rask the Maker tutto per lui. Vabbè, sì. E ha fatto pubblicità a Zira dicendo che il suo computer glielo ripara, vabbè, dai. Vai avanti, dai. A meno attrito va più veloce. Sì, esatto. Vabbè, allora dov'ero? Ah sì, ecco, io nel mondo del game making ho fatto solo due giochi, che sono due punte click. Volevo puntualizzare i dettagli e anche la creazione dei due giochi e anche parlare un po' del futuro, perché bene o male, anche se sto qua dice sempre che vuole chiudere, i giochi vengono fuori comunque sia. Magia. Siamo già a tot di 9, quindi nonostante sia nato nel 2008 Stamicio Segone, è già 9 giochi, quindi non è neanche un gioco all'anno. Sono più di due all'anno. Aspetta. No, è che quest'anno ho fatto il botto, quest'anno ce ne sono 5. Sì, ma se tu fai il calcolo 2009, 2010, sì, più o meno sono due all'anno. Però la metà sono di quest'anno qui. La metà sono di quest'anno qui, però tu fai giochi particolari, cioè comunque li vari anche a seconda di come generi. Come mi gira. Sì, come sì. Ti gira. E oltretutto comunque tu non è che gli dai una gran longevità, massimo sono di una longevità media, solo giusto dopo Blast Barn è un'eccezione. Che conferma la regola. Sì. Non so che cosa voglia dire, ma... Sì, infatti non ha senso, ma... Volevo dirlo. Mentre quelli che faccio io sono sempre di longevità lunga, diciamo, cioè over 1-2 ore, ma anche 3. Per dire che Space Hunter, nonostante sia stato il mio primo gioco, c'ha comunque un punto di clicca da 40 map, con miriadi di enigmi, personaggi, i dialoghi non sono molto dettagliati, però il gioco sa farsi comunque, cioè, si sa dare un sacco di tempo, diciamo, perché non è facile. Ne consegue che il secondo gioco che ho fatto è il doppio della longevità, ha parti difficili ma anche facili, ha enigmi ben studiati, ha dialoghi fatti in modo estremo, dai, bisogna estremizzare. E sì, in un modo o nell'altro, nonostante ci sia un abisso tra i due giochi, io vado fiero di entrambi, quindi non anche se Space Hunter, che è il primo gioco, che è pieno di errori, ci saranno anche alcuni errori di ortografia, ci può essere questo e quest'altro, e avrà subito un sacco di critiche, a me non me ne frega un cavolo. Sì, da un figlio di puttana l'ha subito. Ma in realtà non solo, perché comunque anche sul forum di AGS non è molto carino i commenti che mi hanno lasciato le due tastine, vabbè. Perché se lo paragoniamo ad altri giochi che su fondo AGS hanno, possono avere 3-4 tasti, sono giochi insulsi e insipidi di due stanze, che possono avere una trama ben tagliata, come non possono avere una trama, che però beccano due stanze, beccano tre tasti su 5, perché hanno un nome famoso, cioè hanno un nome di un game maker prolifico dietro che piace su quel forum. Ma prolifico neanche tanto. No, però è un game maker che ha fatto un giocone, allora di conseguenza tutti i giochi che farà dopo sono magnifici. Come Ron Gilbert. Sì, i ragionamenti sono sempre quelli lì, tanto sui alcuni giocatori di punte click, alcuni ragionano in questo modo molto stupido. Alcuni usano la testa. Alcuni non ce l'hanno e usano le tasse. E sì, anche se il povero Space Hunter avrà un bel po' di bug all'interno, che comunque non sono sti gran bug, cioè, per dire la verità ce n'è solo uno grosso, che non è neanche facile trovare, è stato, diciamo, messo all'ombra. Perché non so se ci sia qualcosa contro l'amico Segone Games, forse per una fama che si è fatta sbagliata, ma non è, forse è una cosa equivoca. Io non saprei te cosa diresti. No, che l'Italia è piena di idioti. Ma io non parlo solo dell'Italia, parlo del resto, perché comunque Space Hunter è anche in inglese. Sì, ma guarda che in inglese ne ha di download, ho più di 5.000. È in Italia che non mi frega un cazzo a nessuno, perché sono troppo occupato su che ricazza Gabriel Stripwood. Porca cazzo. Ah, lui sarà anche contento. Ah, vabbè. Sì, però c'è da dire che comunque, anche se è stato download, c'è il vuoto, nel senso, i commenti sono inesistenti. Non è che sia proprio una cosa normalissima nelle avventure free, perché comunque... Ma speravi che ti venissero a chiedere l'autografo sotto casa perché hai fatto il sto gioco? Sto dicendo questo, ma un minimo commento per aver detto ho finito il gioco, è stato bello. Stiamo parlando dello stato che io ho fatto un record che nessuno batterà, perché non è possibile. Sono il primo a essere finito l'European Games of War con un gioco di AGS, è un record che non si può battere, il primo. E nessuna, e anche il primo italiano... Nessuna rivista, nessun sito ha detto niente. Però sono troppo occupati su Chiaricasta d'Altair e fratelli di Assassin's Creed. Però se glielo rinfaccio, è finito sul giornale. Io rinfaccio, non ti dico nulla in contrario. No, anzi, addirittura sono arrivati a chiedermi scusa quando dico che ho vinto io. Non hai vinto. Vabbè. L'altro giorno ho trovato un video di Westernmania dove dei nerd figli di Troia mi prendevano per il culo. Ho detto che ho vinto l'European Game Award, uno mi ha chiesto scusa. Vabbè. Perché ho detto che ho vinto... Nominato, non ah, vinto. Sì, vabbè, mi hanno nominato, me ne fate un cazzo. Mi hanno chiesto scusa. Sono due cose diverse. Cioè, hai vinto è una cosa ancora più importante. L'Italia e annessi e connessi sono posti di merda, i nerd sono persone di merda. Ma quelli non erano nerd italiani, però. Infatti. Però erano persone di merda lo stesso. E vabbè. Allora, parliamo di Space Hunter e lasciamo perdere i nerd e i fan italiani per un pochino. Ci torniamo dopo. Space Hunter nasce nel 2010, nel periodo in cui ero in prima superiore all'Istituto Alberghiero. Cosa è successo? Mi sono accorto che nell'ambiente dove mi trovavo c'erano personaggi molto particolari. Ora, dato sfogo alla creatività, ho creato un miliardo di personaggi. Si dice in giro che abbia avuto aiuti da vario punk per la trama e tutto, in realtà non è proprio così. Io non l'ho mai detto. No, però ogni tanto si sente. In realtà lui ha aiutato nei filmati, nella grafica. Però lo sfogo della trama, degli enigmi, dei personaggi, sono derivati dall'ambiente in cui mi trovavo, più l'aiuto di qualche amico o compagno di classe, che ho preso parte al progetto minimamente, anche se in realtà non gliene è fregato nulla, però almeno mi ha dato un minimo di ispirazione. Come chi è? Ma lo so chi è. Ah, lo sai. È Marco. Non solo, vabbè. Comunque, sì. Marco Girardi. Sì, è Zira, è stato Zira. Che era tornato indietro nel tempo, sì. È andato a Furlì. Sicuramente è colpa sua, esatto. Sì. Ok, ecco. Dato che io ho una mia politica sui videogiochi, l'ho fatto di base lungo. Perché? Perché io penso che le avventure grafiche, già dal termine avventura, devono essere qualcosa che ti prende. Quindi non può essere un giochino di due stanze o tre stanze, o un cerca l'oggetto, o scappa dalla stanza, o quelle menate lì. Se è un'avventura, è un'avventura, quindi vuol dire che o la dividi in capitoli o la fai tutta di un botto. Ma se la dividi in capitoli, tu non la devi staccare in pezzi come fanno quelli che le vendono, che dicevate prima, non so chi cacchio sono. A tel merda. Tel merda. Chi merda, dai, tra amici. Un'avventura va vissuta. E non puoi viverla a scatti. Te la vivi tutta ad un botto. Per cui, tu la, io la divido in capitoli, questo è il mio stile. E la faccio più lunga possibile. Perché? Perché sennò è una storiella, non è un'avventura. Ovviamente all'inizio non potrà prenderti tanto, perché la storia va a evoluzione. Tu non puoi partire subito col botto. Sarebbe un grosso errore. Quindi bisogna sviluppare personaggi, sviluppare personalità, sviluppare la trama. E soprattutto non trovarsi impreparati. Nel senso, o la trama te la scrivi prima, o dai retta alla tua testa e vai avanti finché hai cose malate da sfogare. Quello è trovarsi impreparati, ma funziona se sei creativo, se no sei un nerd. Se sei un nerd, tiri fuori i cliché e le solite Citi menate. Lucas e tutti gli stronzi. Che infatti è una cosa che sto iniziando a odiare. Perché? Perché la situazione a Monkey Island la trovi dappertutto. E come avevi detto tu, il gioco, quello lì del cane, Jolly Rover, Ah, sì. è un'intera citazione a Monkey Island. Cioè, quello lì è proprio Monkey Island e basta. Coi cani. E infatti non ha il mio rispetto, diciamo. Perché? Perché non è un gioco fine a se stesso, è fine a Monkey Island. E non è una bella cosa, perché secondo me ognuno, se dovrebbe, ogni persona, se vorrebbe fare un gioco, deve farlo suo, non Se deve, volessi. se volesse, non deve usare cose già esistenti o ispirarsi solo a un gioco che gli piace, perché sennò tu fai una copia venuta male di quel gioco alla fine, cioè dai. Che non serve un cazzo. No, non serve a nulla perché quel gioco esiste già ed è già fatto meglio. Cioè, è solo una brutta emulazione. E difatti io ho creato il mio universo. In Space Hunter ho creato tutto un nuovo universo futuristico dove potevo sfogarmi. Perché? Perché le regole le decido io. E infatti questo anche mi ha portato a fare questo modello di pensiero. Cioè, se io faccio un videogioco avventura grafica, non l'ambienterò mai nel presente perché a me il presente non piace di base. Ha delle regole imposte che vedo troppo spesso e comunque è troppo normale. Io, a me piacciono le cose confusionarie, comunque un po' più contorte. Quindi ho creato un mondo particolare, personaggi assurdi, enigmi che si risolvono in modi inconcepibili perché sono cose che vanno al di fuori della logica, però in realtà un minimo di logica ci può essere, però devi avere veramente un pensiero laterale assurdo per riuscire ad arrivarci. Diciamo un po' alla Discord 2, che infatti quel gioco, avendo una logica molto malata, sono riuscito a finirlo bene perché anch'io la penso come quel gioco. No, ehi figli di puttana, cosa stai dicendo? Adesso non proprio così, eh. No, no, parlo di persone in particolare, non di tutta la categoria, non di tutti quelli a cui non piace Score 2, anzi, parlo di una persona in particolare. Perché comunque anche qui si resta sul punto. Faccio punta e clicca semicomici, quindi è ovvio che ci siano cose un po' strane o comunque situazioni particolari, Poi, perché comico, non demenziale. Demenziale è vostra nonna, demenziale è la televisione italiana, questo è comico, ragazzi miei. questo lo disse perché in un commento hanno definito Path of the Pumpkin demenziale. Demenziale in realtà è un termine più offensivo, infatti io non lo attribuirei al I gioco. soliti idioti sono demenziali. Sì, è una cosa, cioè, una cosa veramente stupida, ma stupida per gli stupidi. La comicità invece è qualcosa di piacevole che fa ridere i giocatori, cioè dai. Teatro greco cosa c'era? Scusa, commedia tragedia per caso? No, eh. No, c'era Sì. demenziale Ecco. Demenziale è deficiente. nato con... È nato. Tutti sti figli di Sì, vabbè, puttana. nonostante io stia cercando di parlare, tu comunque tiri fuori sempre. Quello che stai dicendo mi fa incazzare, Perché quindi... io dico la verità. Vabbè, la verità fa incazzare. La verità fa Sono male. qualche disegno Pantagruel. Che è un panzone. Vabbè. Vabbè, è un giullare panzone. Sì, allora, Space Hunter, per chi non l'ha giocato, per chi mai lo giocherà, perché comunque... Vero, gira. Vero. ok. Scusa. Perché comunque, ok, avrà tutto quello Vero, vero. che vuole, però se la gente non ci fa sentire è come dire l'abbiamo provato e poi l'abbiamo messo lì. È un gioco che può essere anche definito cioè una storia classica, perché in realtà involontariamente io dentro ci ho infilato cose che sono derivate anche da film, ma io non li conoscevo e ne sono venuto a scoprire dopo. E di conseguenza ho scoperto anche che il nome Space Hunter è il nome di un film fantasy. E quando no, tu non fai la... è fantasy, è fantascientifico. Fantascientifico. Che sono cose completamente diverse. Adventure in Forbidden Zone. Sì, ecco. E quando tu vai a Space Hunter trovi quel coso lì. Beh, questo fa pubblicità, però. Sì, magari non è neanche un brutto film, sembra un bel trisone. No, è perché il video su YouTube ha tutte quelle visualizzazioni perché la gente cerca il film. Si chiama Space Hunter Trailer. E... semplicemente io cosa ho fatto? Ho creato il personaggio del cacciatore di taglio interspaziale che alcuni definiscono una versione alternativa dell'investigatore, ma non è la stessa cosa. E... no, è più simile al cacciatore spaziale, cioè il cacciatore di taglie nel Far West. No, anche esatto. Ma tu sai a chi mi riferisco, chi ha detto questa cosa? Un coglione. Sì, ce l'ha con lui, anche per tutto il tempo, no, ieri me l'ha raccontato. È sbagliato. Anche perché comunque, se fosse un investigatore non c'entra nulla, perché la storia, quando appena si evolve, il lavoro del protagonista non c'entra un cavolo, perché dopo lui dovrà pensare solo a salvare se stesso. Quindi non è che devi indagare su delle persone, tu dovrai salvare solo te stesso. Il gioco, come faccio tutti i miei, cioè come ho fatto anche il secondo, è introdotto nelle prime due stanze con un prologo che, sì dai, serve a calmare un po' le acque, diciamo, perché comunque sono semplicemente due mappe dove dovete svolgere massimo 5 enigmi, quindi anche se sono enigmi malati, prima o poi ci arrivate, perché gli hotspot prima o poi finiscono e anche gli oggetti si trovano. Diciamo che è un modo per, sì, presentare i protagonisti. Appena finito il prologo, che sarà dove voi userete colti il protagonista che dovrà catturare un criminale particolare, si attuerà la storia vera e propria in una cutscene che darà inizio al primo capitolo, dove il nostro protagonista verrà accusato di aver liberato tutti i criminali della metropoli e quindi sarà inseguito, diciamo, dalla astropolizia di Trashopolis. E da qui si aprono 4 capitoli di gioco. Non sono come i soliti free game, che se comunque li fai capitoli, di solito li fanno 4 mappette, 10 enigmi, 2 personaggi che dicono 3 frasi, iper piatti. Boh, no. Qui abbiamo una media di 10-13 mappe a capitolo, una ventina di oggetti vi arriva nell'inventario, se non più. Quindi bisogna darsi da fare, anche parlare con i personaggi forse non è molto utile ancora, è una cosa che ho sviluppato di più in Path of the Pumpkin, però può sempre portare a qualche risata, diciamo, o almeno spero. Ecco, gli errori del gioco si presentano per lo più cioè questo lo definisco un errore, in realtà è una cosa che ho sbagliato io a fare e l'ho fatta su tutti gli oggetti, che quando tu usi un oggetto su un qualunque hotspot, il protagonista avrà una frase predisposta che darà una risposta negativa. Il problema è che quando voi userete l'oggetto giusto su un hotspot, che magari dovete usare l'oggetto sull'hotspot, lui dirà la frase negativa e poi quella giusta. Ecco, questo è stato un mio piccolo errore, che dopo non ho più ripetuto. Poi vabbè, sì, ci sono alcuni errori di vocabolario perché ero ancora alle prime armi. E più avanti ci saranno errori un pochino più grossi, ma comunque non sono cose gravi per lo più. Mi hanno accusato di planting perché sono alcuni oggetti un po' piccoli, ma in realtà si Che vedono. due palle, quella parola è troppo abusata. Lo so. E sì, inoltre... Inoltre mi ha dato fastidio una cosa molto importante, che le persone che l'hanno giocato non hanno parlato minimamente dei filmati che sono ben curati, se non del classico filmato dove viene cantata la canzone Giorgio del Lago Maggiore, perché quella lì è una canzone famosa e divertente. Perché sembra che la gente dia per scontato che i giochi che hanno i filmati siano una cosa così, che puoi mettere così per fare, ma che alla fine non vale niente. Perché in Dwadwall Asban, Texas Mask Sam, Space Hunter, Incatenati non ci sono, vabbè, però anche i Path of the Pumpkin ci sono. Sono stati completamente ignorati. O comunque, sì, la gente se li è visti, ma non è che dicono: oh, questo qui si è messo anche a fare i filmati, che magari è stato un po' un lavorone. In realtà, Gli dici come niente. se li avessi fatti te? No, non li ho fatti io, però so che è un lavorone in realtà. E Ma più o meno. comunque, Se hai danno. talento, no. Se sei uno sfigato, sì. Vabbè, però danno un punto in più di classe al gioco. Sì. E la gente invece questo non lo puntualizza. Ed è sbagliato, perché? Perché, a parte il fatto che tutti i giochi amatoriali che io ho visto di filmati di solito non ne hanno, quando ti esce un gioco così e ti vedi sti filmati, anche secondo me sono fatti bene, poi vabbè, magari per qualcuno non lo sono, la gente invece si mette a guardare cose più piccoleste, veramente inutili, come oddio i font mi fanno venire mal di testa, oddio quella cosa, oddio quella grafica potevi farla così o fare l'ombreggiatura così, ma chi se ne frega, sono io il grafico, testa di cazzo, lo so io come devo fare tutto la il grafica. Gioco è fatto così, il gioco è già uscito, cosa me ne frega a me di ste cose. No, aspetta, ecco, no, aspetta, questo ti sbagli invece, perché se tu non, sei il grafico, ma io ho un, faccio un commento sulla, che secondo me la grafica dà fastidio, non puoi tu dirmi se io il grafico, io ti ho fatto un commento su io da giocatore. Non mi hanno che... detto da fastidio, ha detto questo pezzo, ecco, doveva essere fatto così, cioè scusa. Allora me lo dici in un modo diverso, non mi dici mi dava fastidio e poi mi dici che ti hanno detto così, cioè. Perché come hai detto te, mi stai dicendo che se io ti dico che il font dà fastidio, te ti devi incazzare perché sei tu il grafico, no, sono io che ti dico se mi dà fastidio o no. No, io non mi riferivo al font, il font è la cosa allora... fastidiosa del font, è che la gente prova il gioco e l'unico commento che dà è il font è fastidioso, allora non è, cioè vabbè. Guarda, se a me dovessi giocare un gioco dove c'è un font che mi dà veramente fastidio, che non riesco a giocare, il gioco non ce la faccio a finirlo, mi viene mal di testa e lo chiudo. Dopo, io non ti sto dicendo che è il caso di che non è vero che i tuoi giochi sono dei font fastidiosi, almeno dal mio punto di vista. Però, diciamo, non ti puoi offendere per un commento del genere. Scusa un attimo, Riccardo, quella dei font in realtà è così, era. Ah, i font mancano i punti e le virgole. Vabbè. Ho capito, io i punti e le virgole li ho scritti, magari in questo font non ci sono, non me ne ero accorto, però non è che il gioco non riesce a giocarlo così. Sì, vabbè, però è giusto anche fartelo notare. Sì, va bene, però se tu hai giocato al gioco, oltre a quel commento potresti scrivere qualcosa della storia, invece no, la gente arriva con Ma questo e te poi scompare. sei attaccato che ogni persona ti dovrebbe fare una recensione, Non ho sai? detto ogni, però le persone che giocano... Ok. Ah. Ti lascia girare da Vice City. Poi, ok, Gira deve andare a... Ti No, saluto, almeno Gira. Ok. saluto. Ciao a tutti grandissimi. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, dicevo, Ma non... infatti è tardino, vabbè, vai, io parla. non dico ogni persona, io è che quando vedo le persone che arrivano nei forum ti dicono: ah, io lo giocherò sicuramente, farò Poi questo, non lo fanno. o non lo fanno o vanno avanti, però quando vanno avanti ti dicono questo e poi basta. È una delusione perché... È come se ti avessero detto: non ti preoccupare, io sicuramente ci scriverò almeno un qualcosina. Però quel qualcosina in realtà è solo questo. Vabbè, loro ti fanno, guarda, mettila così, ti fanno del debug gratis in realtà, perché ti dicono quali sono gli errori. No, Poi niente, dopo, cioè. ok, beh, ti dicono che se non ci sono i punti e le virgole è un problema in realtà, comunque mi Sì, ma lui sbaglio. sta dicendo di quelli che invece dicono lo proverò e poi spariscono e non lo Ecco, provano. vabbè, quelli sono gente che poteva starsi zitta, poteva di non Sì. dirti niente a questo punto. Diciamola così. Sì, esatto. Però. Perché? Comunque, abbiamo poco tempo. Io chiudo la parentesi Space Hunter e apro Path of the Pumpkin. E poi dopo dirò qualche piccola parola su un terzo gioco che potrebbe uscire. Ma proprio piccola. Allora, come si chiude Space Hunter? 2 anni dopo si apre un nuovo orizzonte. In realtà non si è aperto 2 anni dopo, però. Perché? Perché io appena ho finito Space Hunter ho dato di matto, come succede a tutti i game maker. No, Cioè, come tu succede appena... alla vostra famiglia. No, proprio tutti i game maker. Tu quando appena fai uscire... Vabbè. Appena un game maker fa uscire il suo primo gioco, dopo c'è subito la voglia di farne un No, altro. non è una cosa che uno dà di matto ogni volta che crea un gioco. È una No, cosa un po' vabbè, quando ti esce il ossessiva. primo gioco, secondo me è così. Dopo ti viene subito la voglia di farne un altro, Vabbè, quello all'inizio. sì, quello sì. Non è che dà di matto. Dai, che così anch'io lo di matto. Vabbè, io sì. Eh sì. Io mi incazzo più E che altro. ora ho iniziato a farmi dei viaggi mentali su Space Hunter 2 più che altro, che doveva essere più lungo di un casino, doveva avere molti più personaggi, doveva sviluppare questo e quest'altro, ci poteva essere cioè, non multiplayer, scusate, potevi usare Colt come potevi usare un altro personaggio in altri capitoli, volevo dire, che è una cosa come su Path of the Pumpkin, dopo ne parlo. E sì, mi ero venuta questa enorme idea, mi stavo già costruendo la trama e tutto. Poi ovviamente dopo 1 o 2 mesetti ti viene da dire: ma chi me lo fa fare? Cioè, io mi sono sbattuto 3 mesi per fare quello lì, adesso vediamo come va a finire. E poi se va a finire bene, il 2 lo facciamo. Ovviamente non è che è andata a finire bene, è andata a finire come tutti i giochi amatoriali. No, Sì, come tutti i giochi della vostra famiglia. vabbè. Finiamo con la famiglia. C'è l'alone di vuoto dove proprio in rari casi, dopo un anno, magari in fondo di AGS arriva qualcuno che chiede aiuto e ci finisce il gioco, una persona. Non mi ricordo come si chiamava. Sì, perché, no, io dicevo così, perché tu stai dicendo come se tutti i game maker si deprimino ogni volta che fanno un gioco, perché voi fate sempre così. Fate un gioco e poi vi deprimete perché non sono i commenti che vorreste voi. Mi deprimete detto che mi era venuto a voi di fare il secondo. No, dopo hai detto... Sì, dopo ho detto che prima di fare il secondo volevo vedere come andava a finire il primo. Esatto, hai detto che è stata una delusione. Sì, ma non è che mi sono depresso, ho detto adesso non lo faccio, lo lascio in sospeso. Ti sei depresso, un po' come... Vabbè. Un po' come T-Rex e Mask of Zen 2, Dovadulas Barn 2, tutte queste cose qua. No, Dovadulas Barn, sinceramente, non è stato... Cioè, non è quel motivo, non lo so perché non l'ho fatto. No, è T-Rex e Mask of Zen 2 che ti sei depresso per un commento su TGM. Sì, Dovadulas Barn 2 non l'ho fatto perché non riuscivo a usare AGS 3.2 e allora l'ho mollato. Invece di Rex Mask of Zen per colpa di un figlio di puttana con un nickname impronunciabile. Ecco, esatto. Quando uno ti scrive, uno con un nickname impronunciabile ti scrive delle critiche, cioè è una persona che non deve esistere, quindi anche il commento non esiste. Sì, effettivamente io adesso sono famoso, invece lui sarà morto d'overdose sotto un ponte, ma chi se ne frega. È per questo che infatti non sa più usare, non scriverà più nel forum. Per questo che è stupido prendersela a sto punto per dei commenti. È il mio carattere, non posso farci niente. Esatto, però non si può generalizzare su tutti i game maker, ecco. No, però comunque ci sarà sempre quel senso di malinconia nel fatto che quando qualcuno arriva a attaccare la tua creatura è una cosa molto brutta. Vabbè, quello sì. Io però tu non sai. Tu non mi stai parlando di gente che ti attacca, ma di gente che non scrive. No, no, però questo è perché è successo anche a me che sono stato attaccato. Però no, è uno stronzo. A differenza, lui sarebbe incastrato, sei incastrato comunque. Io ci rimango male e basta. Allora. Tu hai visto che io mi sono incazzato per 3 commenti su YouTube. Se mi avessero fatto a un mio gioco quello che hanno fatto a te, sarebbe finito il mondo. Ti dico solo questo. Quello adesso mi avrebbe denunciato e sarei in prigione, probabilmente. Possiamo tornare a quello che stavo dicendo. Allora, Space Hunter 2 è in sospeso. Quando l'ho messo in sospeso mi sono detto, allora adesso cosa farò? Vabbè, i videogiochi li lasciamo qui. Poi in realtà una sera mi è venuta in mente un'altra idea, ma se facessi uno spin-off che magari fosse fatto molto meglio, potrebbe servirvi come, diciamo, incentivo a far giocare anche a Space Hunter, perché magari questo spin-off, se fatto bene, se rende meglio i personaggi, perché comunque è una storia precedente a Space Hunter, potrebbe spingere i giocatori a giocare a quello dopo. E mi sono fatto una trama di sto spin-off, che era The Path of the Pumpkin. Però questo qui era comunque un progetto ancora più secondario di Space Hunter 2, sarà proprio un'alternativa che avrei messo prima Space Hunter 2 di questo. E invece cosa è successo? Che dopo è passato in avanti questo. Nel 2011 ho iniziato a farlo, a settembre. Ci ho lavorato per un mese e mezzo facendo il prologo e metà del primo capitolo, poi mi sono bloccato per fare un RPG fallimentare che non è mai uscito. Quando mi sono accorto che stavo perdendo il mio tempo, ho ripreso a fare The Path of the Pumpkin. Io sto ancora aspettando quell'RPG. L'RPG è abbandonato, lasciamolo stare. C'è ancora il progetto. Sì, vabbè. Ho ripreso Path of the Pumpkin e infatti è come dire che ci ho messo un anno, ma in realtà non ci ho messo un anno, ci ho messo 4 mesi a farlo. Gli sfigati ci mettono un anno. Sì, è perché io in realtà l'ho lasciato in sospeso. Quindi che tu sei messo un anno? Mi sono sfigato. Sì, l'ho lasciato in sospeso per 7 mesi, o anche 8 se vuoi. Perché comunque ci ho lavorato a settembre, poi ci ho lavorato a giugno, maggio, giugno, luglio, agosto. E a settembre è uscito, mi pare sia uscito a settembre, sì. Fine agosto. Gli ultimi giorni di agosto, sì. Sì, ci ho messo 4 mesi, però io, al contrario di persone normali che in 4 mesi ti fanno un gioco di 10 stanze, ne ho fatto uno di 60 e ne vado molto fiero, come vado fiero di Space Hunter. Perché anche se Space Hunter me l'hanno attaccato, io comunque non mi sono demoralizzato più di tanto sul gioco in sé. E questo infatti potrebbe comunque convincermi un giorno a fare il 2, nonostante le critiche. Finisci l'RPG e poi fai anche il 2. Ci tieni tanto te con le RPG? Sì, mi piaceva l'idea. L'avrei voluto vedere finito, ecco. Allora, Path of the Pumpkin. Path of the Pumpkin è stato un progetto che mi ha un po' sfuggito di mano, che inizialmente doveva essere come Space Hunter. Cioè, dato che è uno spin-off, non è che lo devo fare più lungo, più pieno di azione, più dettagliato più di tanto. Cioè, sì, doveva essere fatto bene, ma non così tanto bene come mi è venuto, perché a me piace molto. E doveva essere fatto in 4 capitoli. Infatti, quando l'ho iniziato a settembre, il progetto era quello. Dopo si è modificato quando io l'ho ripreso in mano. Ho aggiunto della roba, ho aggiunto dei personaggi, ho aggiunto dei dialoghi, ho aggiunto tutto. E ho cambiato anche ho cambiato completamente la trama a un certo punto del gioco. E direi che ho fatto anche bene, perché la trama secondo me è migliorata. Un altro punto per cui dico che mi è sfuggito di mano è perché secondo me il personaggio di Scar, se voi giocate a questo, a Space Hunter, è più rilevante di Colt, perché Scar comunque ha una personalità più vasta e parla molto di più. Poi ovviamente ha un sensuale assistente intergalattico che non manca di battute stupide e che sarete anche costretti a usare durante il gioco. Ecco, la trama, come avevo già pensato, dello spin-off è molto semplice. Quando voi giocate a Space Hunter e incontrerete il personaggio scarico, l'Uomo Zook, si dirà in giro per tutta la metropoli che lui tempo fa salvò la metropoli e sconfiggendo un certo Saturnud. Ecco, semplicemente lo spin-off è quella storia, che in Space Hunter te la riassumono in due frasi. Io ci ho fatto un gioco. Ma che doveva essere un piccolo gioco, in realtà è venuto un giocone e sono molto fiero, come ho già detto. Infatti mi sto ripetendo molto. Già. Non sto scherzando. Non voglio scendere nello specifico, perché comunque, cioè, posso solo dire che l'inizio del gioco è come quello di Space Hunter. Due mappe, qualche enigma, ed è la classica introduzione dove voi dovrete catturare un criminale. Poi dopo partirà la vera storia. Ecco, il fatto che qualcosa di questa storia detto in Space Hunter ho dovuto comunque rendere il finale simile alla storia che mi hai raccontata, cioè dargli una parte vera, diciamo. Non è stato tanto complicato e anzi mi sono divertito più di Space Hunter a creare il gioco, perché in Space Hunter diversamente avevo fatto dei dialoghi con pochi dettagli o comunque con poche risposte anche. Mentre qui ho fatto dei dialoghi iperintricati, dove anche se direte 5 frasi a un personaggio, ci saranno, catene di risposte assurde. Quindi se volete una frase a un personaggio, ci saranno almeno una media di 30 frasi prima che finisca il tutto. Perché? Perché ho dato sfogo alla mia mente, diciamo, dando una personalità a ogni personaggio. Ma non lo sto dicendo stupidamente. Un minimo di personalità ce l'hanno tutti. Io odio i personaggi piatti e per questo detesterei gestire un punto e clicca in un'epoca moderna, perché comunque nell'epoca moderna ci sono i soliti cliché. Ed è più difficile creare personaggi particolari, quindi inventandoli si ha più libertà. A Enigmi il gioco è inizialmente difficile, i primi due capitoli sono molto difficili, poi dopo diventa molto semplice in realtà. Nonostante siano enigmi stupidi, ci si arriva anche con la logica, quelli che ci saranno dopo nel gioco. Poi vabbè, ho inserito dei minigiochi, due minigiochi diciamo. Ci sono 12 filmati, se non ricordo male, nel gioco, forse 10. E 81 personaggi, che non è una cosa da poco, ma a nessuno gliene frega niente. Lo so che Variopunk ha scritto in tutti i forum in cui l'ha postato il gioco più grande di tutti, in Italia lo è, fine della storia. Con 81 personaggi e 60 mappe, e l'unica persona che ha guardato sta cosa aveva detto: oh, tu fai le cose in grande, ma come fai, una cosa così, avevano scritto. Del resto, per questi commenti c'è gente che invece l'ha presa male, ma non è che è un vanto, è che veramente il gioco è costruito con queste cose. No, cioè, per me è un vanto. Sì, però non è che lo dici così per dire che sono 60 mappe, sono veramente 60 mappe. Certo. Non è che lo dici per dire una cavolata, scommetto. Poi se non ci credete ve l'ho finita, che tanto la soluzione io ve l'ho scritta appena fatto uscire il gioco, per dare possibilità a tutti di finirlo. Il problema è che, dato che è uscita solo la versione italiana, di download ne ha avuti pochissimi, e di persone che l'hanno finito anche ne ho sentite poche. Però ci sono, almeno ci sono. E si sono divertiti a giocarlo e mi fa piacere. Ma ci credo. Come ci credi? Ci credo, è gratis ed è fatta bene. Si pagano 30 euro avventure che fanno cagare, quindi... Ed ha anche una buona longevità, cioè, cioè, mi sembra che abbiano detto che supera anche le 10 ore. Perché io in teoria non potrei sapere la longevità, che sono tutta a memoria del gioco. Ci vorrebbe una persona che non deve cercarsi gli enigmi, diciamo, per capire quanto sia longevo il gioco. E io non posso. Inoltre ho anche messo una piccola, un piccolo aiuto, diciamo, molto strano. C'è, cioè, un oggetto secondario che si può trovare nel secondo capitolo. Se non lo trovate, basta andare sulla soluzione e andate nella soluzione del secondo capitolo e vi dirà subito dove si trova. È un oggetto molto strano che potrebbe, diciamo, se riuscite a capirlo, aiutarvi in tutti i capitoli. Ecco, è una piccola, è una piccolezza che ho voluto mettere io per rendere, dare un, per rendere un po' più carino il gioco, diciamo, dai. Almeno è qualcosa di meglio, secondo me, che fare invece il finale alternativo che si fa nell'ultima mappa con un enigma del cavolo. Sì. Che fanno tutti nelle avventure a pagamento. Quelle lì sono cose veramente che non mi piacciono per niente. Cioè, nel senso, se devi fare dei finali alternativi, li fai in mezzo alla storia, con dei bivi fatti per bene. Non li fai così alla fine con un enigma, perché così è troppo facile, dai. E purtroppo lo fanno in molti perché è una cosa facilona e i fan tutti a dire: ah, oh, ma so, so tipo quattro finali, quindi se salvo nell'ultima mappa li posso vedere tutti, tipo papà, la la la. Poi io qui comunque i finali alternativi non li potevo mettere perché il finale è uno ed è quello che viene raccontato in Space Hunter più o meno. Ah, sì. Quindi non avevo molta scelta. Infatti un po' ci avevo pensato, poi mi sono accorto che sarei entrato in contraddizione. Sì, infatti. Essendo un prequel. Non puoi. No, no, però. Tante alternative. Sì, sì. Sì. Poi che altro dire? Ho integrato il sistema del cambio personaggio. Però l'ho integrato nel senso. Non so, come si faceva anche in alcuni vecchi giochi. Che in alcuni pezzi devi usare un altro personaggio per salvare l'altro. Un po' come in Hollywood Monster, per dire. Sì, dai. Io vado fiero del gioco. Purtroppo l'Italia non ne va fiera minimamente. Ma di tanto l'Italia di cosa va fiera a parte del calcio non lo so. No, esatto. E niente. Passiamo infine a un piccolo progetto che sto creando con Game Maker. E adesso, ok, sono intriso un po' in alcuni errori, ma vedo di uscire i video di YouTube. Perché purtroppo io, avendo scaricato Game Maker 8, che è molto, cioè, molto più semplificato delle vecchie versioni, ci sono dei tutorial su internet che non sono proprio molto attendibili. Infatti ho dovuto affidarmi alle guide su YouTube, delle quali ci sono alcuni, diciamo, alcune persone che hanno postato delle guide molto utili. E infatti grazie a loro sto iniziando a creare il mio primo platform, che è stato sempre uno dei miei grandi sogni, fare un platform. E non vi preoccupate perché tanto minimo in 3 mesi lo faccio uscire, tanto io massimo ci metto 4 mesi a fare un gioco. E poi un platform non ci vuole tanto, non è, le avventure grafiche sono un po' più dettagliate, diciamo. Ma ricche di particolari. Mm. Bene, bene, bene, bene. Hai finito? Sì. Ha finito. Ha finito. Allora, e così con questi insulti all'Italia... Chiara, cosa hai da dire? Ok, non ti sentiamo più, Marco. No, così con questi insulti all'Italia e al suo sistema di merda possiamo chiudere questa avventura chiamata Triforce. Prima però volevi... Prima stagione, scusate. Questa prima stagione, con i colpi di scena, riuscirà ad appropriarsi della villa di Diaz? Riccardo? Eh? Ok, no, è che Skype mi dà errore. Vabbè, fai niente. Volevo sapere se c'era ancora. Prima di chiudere per sempre, volevo dire ai nostri ascoltatori che non lo sanno, quindi nessuno, perché tutti quelli che ci ascoltano lo sanno, che la Mitsugone Games ha adesso anche un negozio di magliette, tra le quali c'è anche quella di Ask the Maker. Quella di Triforce normale no, perché siccome aveva il logo del joystick del NES, non posso vendere mai. Miyamoto si è incazzato. Sì, Miyamoto si è incazzato. Per davvero, stavolta. E non sto scherzando. Detto, per davvero, infatti ho detto. E il negozio si può trovare su Micio Segone barbershop.spreadshirt.it, oppure sul sito normale, in ogni pagina c'è un link per il negozio con le immagini delle maglie. C'è anche in offerta la maglia del cattivo recensore. Sì, c'è la maglia dedicata ai recensori italiani, poi una dedicata a Vicky Merda e altre nostre famose citazioni tipo la Wii Magica e compagnia. Non è una Wii, sono Miyamoto Shinkest. Ui! Una Wii Magica! Wiki merda. La maglia di Wiki merda è meravigliosa. E così via. E niente, con detto questo, possiamo concludere questa avventura durata 2 mesi, che ha anche durata. E Vario Punk vi saluta. Buia. Ricca. Buia. Ciao. Ui. Io non sono Ui. Scherde Punky. Ci vediamo alla terza ed ultima stagione, perché dopo inizieranno a comparire cose strane. Ok, quindi chiudiamo qui. Ciao a tutti! Ciao!